Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. E bentornati carissimi amici di Runtime Radio a questo terzo appuntamento con Ludico Forum. Terzo ufficiale sarebbe la quarta puntata, ma noi continuiamo a ripetere sempre la stessa cosa, insomma, perché sapete perfettamente che abbiamo iniziato la puntata zero e poi sapete quanto ve ne possano fregare, immagino. Comunque questa puntata ricca, tutta dedicata a Cyberpunk 2077, lo diciamo subito, è una puntata che rispetterà la questione degli spoiler, cioè non facciamo come facciamo di solito, che noi ce ne fottiamo riccamente e cominciamo a raccontare l'ultimo secondo di quello che succede prima dei titoli di coda. Questa volta rispettiamo insomma il discorso, parleremo del gioco nel suo insieme e parleremo ovviamente di quello che è il quelle che sono state anche le varie problematiche. Adesso lo sentiamo anche nell'intro. Permettetemi però prima di presentare ovviamente i nostri ospiti e iniziamo da Carmine Puccio Console. Ciao a tutti. Bella Carmine. Ah, questa cosa musicale non c'era fino all'ultima volta. Sì, l'altra volta c'era Ugualdi che l'ha voluta rimettere due volte, perché dice bella, rimettila due volte. Gli è piaciuta talmente tanto. Sì, esatto. Fa schifo, però io la voglio mettere, va bene? Quindi salutiamo anche Walter Sbano. Qui non c'è nessun Walter Sbano, qui c'è V il corporativo. Ah, no, pure il corporativo sei. Buh. Infame fino all'ultimo. Buh. E abbiamo. Buonasera, ragazzi, bentrovati. Pare ieri che parlavamo di altre cose videoludiche, ma finalmente, per la prima volta da quando abbiamo cominciato Ludico Forum, parliamo di videogiochi. Di Carlo Buricana trova il suo senso pieno perché siamo nel 2021. È vero, hai ragione. È vero perché non. Vabbè, era pensata insomma perché questa trasmissione avrebbe dovuto iniziare un po' di tempo fa. Abbiamo un grande ritorno, giustamente molto collegato a questo gioco, anche visto insomma lo stile del suo canale YouTube. Abbiamo il carissimo Leonardo alla Wintonna. Ciao Timo, buonasera a tutti, grazie ancora per l'invito. E grazie a te per sono essere sempre di essere tornato. E grazie a te per essere con noi. Ricordiamo il canale di Leo che è Halloween. Andate, cercatelo su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella e seguite i suoi long play. Proprio perché lui prende un gioco di ruolo e se lo gioca dalla A alla Z con le sue 170 ore totali. Però è un modo, insomma, per essere. È molto verticale, bisogna dire, molto verticale, però io mi ci sono appassionato, quindi. Ma d'altronde io non sono il pubblico standard, diciamo così. E, che stai facendo in questo momento sul canale? Solo Cyberpunk. Okay. E sto cercando di decidere quale sarà il prossimo, però visto che c'è poco in arrivo di interessante, se non forse Vampire, però parliamo di mesi, forse facciamo un salto indietro con qualcosa di ormai passato, non so, un Dragon Age, vediamo. Dragon Age Origin? Visto che stavi facendo l'Early Access di Baldur's Gate. Ha finito. Me l'hanno tolto, è finito, non c'è più niente. Ah. Purtroppo è andata così, ma adesso ormai è fine 2021, la 1.0 sì, hanno sì, detto, sì, quindi sì, insomma... Sì. Ah, mazza, tutto ce questo gap tra l'early access e il sì. gioco vero e proprio. Eh sì, perché praticamente il gioco è pieno di cose da sistemare. Cioè, nel senso, io pure. Vabbè, c'è chi non se ne fa un problema. No, visto. Non lo so, infatti. No, non a quel livello. Era piacevole l'early access, è stata una bella passata, devo dire. È stato. Poi ti danno quel tot di ore per farti venire la bava alla bocca e te lo tolgono dalle mani subito. Così adesso abbiamo aspettato. Considerando che lo paghi, non sapevo che poi ci sarebbe stato questo gap così lungo. Vabbè. Mm. Purtroppo allora sì. Salutiamo intanto le persone che stanno in chat. Marble Madness che dice che il figlio di 3 anni stava saltellando con le nostre musiche prediretta. Abbiamo messo una compilation di Capodanno, rimane ancora quella, insomma, un po' di tempo. Michele De Paola ci dice ciao 2020 e vabbè, poi dopo ne parleremo insomma a fine puntata di che cosa significa questa cosa. Il cuciniere dallo spaccio profondo ci dice buonasera. Lucio Plantone pure ci saluta e ci fa piacere, insomma, benvenuti a tutti quanti. E di che cosa parliamo oggi? Non è affatto possibile fare un programma che fa riferimento all'intrattenimento tecnologico e interattivo e non parlare o affrontare il caso del momento, Cyberpunk 2077. Gioco attesissimo che ha visto una crescita di perplessità, desiderio, rinvii e tanto altro ancora. Oggi il gioco è una realtà dell'industria e molti, tantissimi, lo stanno giocando nonostante tutto. Quindi, tramite Walter Sbano, Puccio Console, Francesco Lobby Frontali e l'amico ospite Leonardo Alawin Tonna, ne parleremo accuratamente, nel bene e nel male. Beh, ovviamente è inutile che vi dico che Francesco Lobby Frontali non c'è, questa sera ci ha dato buca per ragioni misteriose. Che non sappiamo, ma sicuramente sono migliori di quelle di stare qui con noi a parlare di videogiochi. Detto questo, ragazzi, iniziamo a parlare insomma di quello che è il tema. Io no, è difficile poter parlare di Cyberpunk 77 senza parlare dell'origine di questa software house che ha fatto in 15 anni, facciamo 20 anni, di 15-20 anni ha fatto una parabola, diciamo, di crescita veramente incredibile, partendo da software house importatrice in Polonia dei giochi di ruolo, quelli tradizionali della BioWare, insomma, quando allora era, e quindi sai, i vari Baldur's Gate e via dicendo, traducendoli ovviamente dall'inglese al polacco, fino a diventare di per loro anche sviluppatori con il primo The Witcher, che ricordiamo utilizzava comunque i vecchi engine dei vecchi giochi di ruolo, insomma, un gioco un po' particolare da giocare ma meraviglioso, e poi ovviamente crescendo insomma in questa sua escalation, arrivando insomma fino al AAA, addirittura arrivando a diventare una delle software house più grosse dal punto di vista anche finanziario, si è accostata, quanto dicono, a Ubisoft dal punto di vista patrimoniale, insomma, quindi vuol dire che con la licenza di The Witcher CD Projekt insomma ha fatto veramente un po' il botto, soprattutto con The Witcher 3, che sì, gioco magari che è uscito anche lui con dei problemi, però è stato stramato, è nata poi la serie televisiva e poi anche, diciamo, la crescita della vendita dei libri anche in Italia, perché giustamente se l'autore, che non ricordo adesso come si chiama, Sapkowski, esatto, diceva che a tutt'oggi è convinto, esatto, che non sia stato il gioco a far vendere i libri, ma il contrario, ma i libri, esatto, a far vendere il, esatto, gioco. Poveraccio, no? Vabbè, ma ho capito che mi hanno detto che è anche un po' un alcolizzato, insomma, quindi senti, io l'ho visto a Lucca di persona e ho accompagnato un amico che lavorava per, o lavora ancora, non te lo saprei, per Rai 4, quando è andato a intervistarlo. Alcolizzato non saprei, ma molto convinto di quello che dice, decisamente sì. Beh, questo me lo immagino. Cioè, proprio ci crede. Bene, allora parliamo un attimo di CD Projekt. Chi è che l'ha conosciuta? Insomma, tu, Puccio, che poi sei uno che si documenta tanto, che legge libri. CD Projekt io l'ho incontrata la prima volta perché il primo The Witcher, quello isometrico. Puccio? Sentite? Stiamo perdendo Puccio. Puccio, oh, ecco, ora. Sì, adesso ti sentiamo. Ora sì, ora mi sentite, sì. Mi sentite? C'ho avuto un momento di No, non so cosa sia stato. Allora, stavo dicendo, no, io CD Projekt li ho conosciuti per il primo The Witcher, quello in stile isometrico, simil Baldur's Gate, uscito parecchi anni fa. Io i libri avevo letto qualcosina, quel poco che era arrivato in Italia, l'ambientazione mi era piaciuta e tutto sommato era un gioco di ruolo piacevole, se la batteva molto alla lontana con i fratelli maggiori, però era cioè un po' più fresco rispetto agli altri. Il 2 giocato mi ha lasciato sempre un po' così perplesso quel gioco. Il terzo non sono riuscito a innamorarmi, con tutto il buon cuore, a differenza di tutti gli altri giocatori, però diciamo che durante la lavorazione erano già emerse le prime informazioni su Cyberpunk, quindi comunque mi aspettavo un gioco croccante. Vabbè, poi ne parliamo. Oddio, croccante è un termine che usa Leo, tra l'altro. Sì. Nei suoi canali, nel suo canale usa sempre sto termine. Che poi, tra l'altro, no, vabbè, però The Witcher 1 non è che c'aveva la visuale isometrica, era un gioco più simile a, diciamo, Neverwinter Night. C'erano entrambe, c'era sia l'OTS, che è il classico over the shoulder, che l'isometrica se volevi switchare, però di base nasceva come OTS. Sì, poi a me ricordava molto Neverwinter Night come impostazione. Sì, quindi, secondo me è il più bello l'uno. No, l'uno ragazzi, io ci ho giocato veramente l'ira di Dio, poi ho faticato all'inizio, io che ero uno che giocava molto ai giochi di ruolo proprio più, più tradizionali, no? Magari quelli a turni o quelli comunque con la pausa tattica e via dicendo, avevo un gioco che si basava tutto sul tempismo, sulla ritmica, per me era un po' una cosa, insomma, diciamo, non riuscivo a incastrare le due cose insieme, no? Poi alla fine mi sono abituato e devo dire l'ho finito con grande amore, e c'è stato un boss, ragazzi, mi ricordo sulla riva di un lago, sulla riva di un mare, non mi ricordo, in mezzo a un tempio, un quadrilatero, c'è stava sto boss che non moriva mai, che forse era il boss più forte di tutto il gioco, che mi ricordo che mi sono pippato le peggio droghe, che a un certo punto non si vedeva più un cazzo sullo schermo, perché quando lui era intossicato dalle droghe cominciava a distorcersi tutta l'immagine, non so se voi ricordate, fino a che alla fine sono riuscito a buttarlo giù, ma penso che ero proprio arrivato al limite dell'intossicazione, dell'avvelenamento, insomma, bellissimo. Questo Simone Pizzi, mica il personaggio, no, mica tutte, Geralt. Tutte e due insieme, insomma, quindi vabbè, ecco, volevamo, tu invece, Leo, magari l'hai conosciuta un po' la parabola della Software House... L'ho visti nascere praticamente, perché anch'io ho giocato tanto all'uno, che è quello che preferisco. In realtà l'ho visti anche un po' morire, tra virgolette, perché una cosa che non mi è garbata tanto è stato il fatto che, chiaramente spinti dalla voglia di aumentare il numero di player, di vendere più copie, si sono un po' consolizzati, diciamo. Infatti dal 2 hanno cominciato a usare un engine fatto in house e il gioco, insomma, cominciava a diventare un po' meno di nicchia rispetto all'uno, che era secondo me il top assolutamente. E comunque mi sa che quella che hai combattuto, se non sbaglio, era la regina delle Kikimora, mi sa. Può essere sì. Guarda, era una cosa terribile, cioè è stata una cosa terrificante, che poi sì, in effetti il discorso, allora, del 2, The Witcher 2, c'era sto problema dei quick time, cioè, ragazzi, era, cioè, una cosa assolutamente insopportabile, ingiocabile, però il gioco cominciava ad avere un aspetto molto più AAA, quindi c'era proprio una conversione, ma io lo accetto anche che ci sia comunque un passaggio, una professionalizzazione, un ammiccamento al mercato, così come poi magari c'è stato nel terzo. La cosa che diciamo ha fatto discutere molto me e Marco Gualdi, e qui poi voglio sentire anche la vostra opinione, Marco Gualdi che stasera chiaramente non è qui con noi, era il fatto che quando loro presentarono Cyberpunk 2077, probabilmente lo presentarono anche per una questione di licenza, cioè nel senso, non acquisito la licenza, loro fecero questa specie di teaser trailer, tra l'altro neanche animato, cioè solo in movimento, con la camera in movimento, di un'ambientazione che era fatta tra l'altro in DAZ 3D, perché io l'ho ritrovata andando a cercare su internet, insomma, sono andato a ritrovare praticamente il fatto che quella era considerata una delle features di DAZ 3D, che è un software gratuito, però diciamo professionale per la creazione di soggetti umani e ambientazioni, quindi rendering fotorealistici. È gratuito il software, perché poi tutti gli assets sono a pagamento, cioè nel senso, de base il software studio è gratuito, però poi dopo qualsiasi cosa devi aggiungere dentro, effetti, altri tipi di rendering, roba del genere, è tutto a pagamento, quindi ci sta, insomma, come tipo di cosa. E a me quella cosa mi lasciò un po' interdetto, perché chiaramente loro fecero un annuncio di un videogame del quale non avevano niente, cioè non c'era niente in ballo in merito a quella cosa, cioè non avevano, secondo me, neanche iniziato la pre-produzione, non lo sviluppo, quindi non c'avevano neanche idea, insomma, di quello che stavano facendo, però hanno voluto fare sto grande annuncio, e quella cosa un po' fece storcere, mentre che la maggior parte della gente ha lasciato un sacco di entusiasmo. Non so, Leo, se tu come l'hai vista, insomma. Io uscivo da una storia d'amore con World of Darkness in quel periodo lì, che è stato, non so se l'avete seguito anche voi, che era un MMO gestito dalla CCP, sono quelli di EVE Online, che comunque è un MMO che ormai ha 17 anni e vive ancora con un quantitativo di giocatori anche piuttosto rispettabile. E quello poi si è rivelato un, tra virgolette, vaporware, e quindi ero preoccupato di quello in realtà io, perché era stato, diciamo, l'iter era molto simile, hanno preso il nome del gioco, l'hanno preso, hanno detto ragazzi facciamo questo gioco eccetera, poi dopo non si è saputo più niente, e lo stesso ha fatto CCP, perché ha promesso sto gioco di Vampire, che poi alla fine, dopo mi pare 6 anni che avevano detto che lo facevano, hanno detto ragazzi purtroppo non facciamo più. diciamo nel 2014 quando fallì poi Vampire mi ero cominciato a preoccupare che succedesse lo stesso di Cyberpunk, e poi invece alla fine ci hanno... Beh sì, diciamo subito. Che l'idea del Vapower c'è stata per tanto tempo, perché a un certo punto veramente non si era più saputo niente, insomma, effetto Half-Life 3, diciamo così. Tra l'altro Half-Life 3 è preso per il culo all'interno di Cyberpunk, cioè nel senso è una delle cose, diciamo, ci vuole coraggio. Left 4 Dead ce lo danno però, eh? Left 4 Dead ce lo danno, ormai è assicurato, almeno quello. Ok, almeno quello. Okay. Però c'è questa cosa, insomma, che a un certo punto, non so, Puccio, tu che sensazione ci hai avuto? Se ci hai avuto l'hype quando è stato presentato? No, ce l'ho avuto e ce l'ho avuto a mille, perché il gioco di ruolo cartaceo mi è sempre piaciuto tanto, ci ho giocato parecchio, è stato forse le campagne più lunghe di ruolo che ho fatto sono state più quelle su Cyberpunk 2020 che non in AD&D. E in più è forse il genere della fantascienza, tolto Asimov, che per me fa genere a sé, che mi ha segnato di più, mi ha definito di più. Cioè, quando mi sono visto quel nome davanti, cioè avevo gli occhi a cuoricino, in ginocchio, vi prego, fatelo uscire presto, ve lo pago in anticipo. E presto non è uscito. Sì, in effetti. Walter? Ma guarda, a parte, ora è difficile tornare a certi dettagli con la memoria così indietro, perché sono passati tipo 10 anni da quando CD Projekt aveva annunciato, se non ricordo male, proprio se non all'unisono ma poco ci manca, sia The Witcher 3 che Cyberpunk. E come dici tu, quando l'hanno annunciato non c'era nulla, probabilmente avevano appena acquisito i diritti per farlo e hanno voluto anticipare questa chicca, e appunto a tutti quegli appassionati di Cyberpunk come me, come Carmine, penso anche come voi altri, è stato proprio un colpo, hanno giocato proprio quei sentimenti, anche perché di giochi Cyberpunk per computer, a parte qualcosina, ma che comunque erano giochi molto minori e molto più concentrati sulla parte di netrunning eccetera, non è che la storia videoludica sia piena. Quando ti hanno detto prendiamo il contesto del gioco di ruolo Cyberpunk più famoso al mondo, che è Cyberpunk 2020, e ci facciamo un gioco di ruolo, la mente è volata, perché poi reduci da tanti giochi di ruolo per computer più orientati all'ambito fantasy, perché in quegli anni poi Diablo, Baldur's Gate, Neverwinter Night, quindi era l'idea, l'ideologia di applicare certe metodologie, certe meccaniche, certi regolamenti, ma ad un'ambientazione finalmente un po' diversa. Ah, che bello, quasi come per vampiri. Poi vampiri, personalmente, i giochi per computer tratti da vampiri sono sempre stati abbastanza deludenti, non mi hanno mai colpito più di tanto, perché forse lì quello che veniva un po' a mancare era la componente narrativa fatta, la storia fatta bene per certi versi. Nel caso di Cyberpunk, con il presupposto di The Witcher, gli elementi sembravano tutti al loro posto e l'attesa è stata molto molto lunga, però personalmente non mi aspettavo che sarebbe uscito poi così tanto prima, proprio perché non mi pare che abbiano mai fatto segreto di voler portare a termine prima The Witcher 3 e poi di fatto cominciare con... Beh, anche perché The Witcher 3 era già in sviluppo, mentre che Cyberpunk era solo un'idea, cioè fondamentalmente... Beh, cioè... probabilmente sì, li hanno annunciati insieme, poi ecco, Cyberpunk, cioè The Witcher è uscito nel 2015, li hanno annunciati nel 2010 entrambi, se non ricordo male, Cyberpunk è uscito adesso, mentre The Witcher è uscito comunque nel 2015, quindi l'idea è che comunque CD Projekt Red sia uno studio di medie dimensioni, ma che non può portare più di un progetto avanti alla volta, tant'è che poi per monetizzare qualcosa in più nell'intertempo tra The Witcher 3 e Cyberpunk è uscito anche Gwent, che probabilmente è stato un modo di rinnovare un po' il brand. Non è andata benissimo il lancio, no, di Gwent. Cioè, Gwent no, però c'è stato quell'altro, come si chiama? Thronebreaker, quello non era male, sempre se nell'ambientazione di... Sempre sull'ambientazione di The Witcher, che era praticamente tu seguivi la storia, però poi il gioco era combattimento a carte, no? Però era tutto doppiato in italiano, cioè aveva tutto un... Sì, no, era la modalità campagna di Gwent, sostanzialmente. Esatto. Sì, però insomma, voglio dire, quello era caruccio come tipo di gioco. Che allora, lo trovavi all'interno di Wild Hunt, della versione GOTY, sì, di The, sì, Witcher, in pratica. Io non ricordo, devo dire la verità, se sono stati presentati insieme. So che loro presentarono Cyberpunk quando avevano già... c'era già il 3, The Witcher 3 in avanzato sviluppo, cioè in avanzato, in sviluppo. La cosa sicura è che è vero che loro, secondo me, non ci hanno avuto una difficoltà nella gestione, perché loro erano un po' la Obsidian dell'Est Europa, secondo me, cioè nel senso la garanzia che ti dava e la frenesia e l'eccitazione di tutti quanti è il fatto, ah, dato che questi sono appassionati dei giochi di ruolo, fanno i giochi di ruolo, ci stanno a fare il gioco di ruolo di Cyberpunk 2077. Dall'altra parte è vero che dei giochi forse di prima fascia in ambientazione cyberpunk non ci stavano tanti, però è vero pure che ce ne stanno poi dei giochi, cioè in realtà poi da Shadowrun a Deus Ex stesso, che tra l'altro viene controcitato anche all'interno di Cyberpunk 77 stesso, insomma, no? Quindi alla fine... Sì, diciamo, ma se vuoi anche System Shock, se vuoi sì, anche... Sì, sì, ci stanno, non è che... Però diciamo sono, che però, forse di prima fascia magari non ce ne so così tanti, diciamo così, no? Siamo citati pure noi come videoludica. C'è un posto che si chiama Pizzeria Priore, l'ho trovato ora. No, dai. Poi vi mando le foto. Beh, io ho visto, sì, c'è sta il Castelloni con la faccia di Mike Scioscia. Cioè, ragazzi, hanno fatto un lavoro da quel punto di vista, non solo la presenza di influencer come parti all'interno, ma anche Castelloni con un paio di youtuber italiani. Cioè, nel senso, alla fine hanno fatto sto un lavoro di dettaglio mostruoso su un gioco, ma poi questo, su questo ci arriviamo, insomma, diciamo così. Però ecco, Puccio, diciamo che un po' la sensazione del vapor a un certo punto c'è stata, fino a che, non so, usciti questi primi, diciamo, queste prime demo controllate, diciamo così, i primi elementi di gameplay, dove praticamente cominciavi a sentire le riviste, quelle più importanti, le testate che cominciavano a dire, ma abbiamo delle perplessità perché secondo noi il gioco ancora è molto indietro e dovrebbe uscire tra non molto, insomma, è da lì cominciato un po' un percorso sui carboni, sì, ardenti. Vabbè, ma lì, cioè lì credo che chi seguiva, ma al di là dei giornali, anche chi seguiva, come posso farlo io da appassionato, si è reso conto che stavano cercando di mordere più di quanto potevano, perché per quanto poi sia diventata grande il CDR è comunque una realtà, certo, non gigantesca. Secondo me il problema è che è cresciuto in fretta, cioè, forse è quello, no, il problema è stato dare delle date che erano irrealistiche all'inizio e poi avere il team frantumato su più versioni diverse, che all'inizio erano soltanto quella PC, PS4, Xbox, e poi è diventato PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series X e S. Quindi sostanzialmente sono passati da fare due versioni più una, perché quella PC e quella Xbox tendenzialmente tendono ad essere molto simili, perlomeno come sviluppo, ad avere praticamente otto versioni diverse da portare a casa. Questo secondo me li ha infilati in un collo di bottiglia di sviluppo che si è liberato molto molto molto lentamente. Chi aveva accesso alle beta, alle demo, chi vedeva le dimostrazioni per la stampa durante le conferenze, tornava e raccontava di un progetto che stava comunque procedendo, ma non alla velocità che ci si aspettava. Quello che poi è successo, secondo me, conferma questa sensazione. Tu, Leonardo, ce l'hai avuta la sensazione, cioè, delle perplessità quando hanno cominciato a uscire i primi gameplay anche sui canali straniero? Anche un paio, come ti ho detto, io guarda, dal 2014, quando la CCP mi ha spezzato il cuore con quella cosa di World of Darkness, da lì tutti i progetti che seguivo come Star Citizen, Cyberpunk, e ho cominciato ad avere i miei super dubbi, ho cominciato a dire, mi sai, questi fanno tutti quanti la stessa fine. Poi non è stato così. Star Citizen bisogna ancora vedere, per esempio, perché anche lì capace finiranno i soldi e poi non ce la faranno. Però Cyberpunk, diciamo, è stata un po' una sorpresa per me. Non me l'aspettavo che ce la facessero, e ce la facessero nonostante tutto sufficientemente bene, perché per PC il gioco è abbastanza buono, onestamente. A me, diciamo, che il gioco su PC è nella media dei tanti AAA che escono con i stessi problemi, cioè fondamentalmente. Sì, non è peggio di un gioco Bethesda. Ecco. Cioè, i Bethesda appena uscito. O Ubisoft, cioè, anche. La maggior parte erano. O Skyrim, non è che c'aveva meno bug quando è uscito. Skyrim, no, è terribile al lancio. Ma Skyrim e Fallout 3, ragazzi, io ridevo. Cioè, ci sono delle volte che ridevo. Ma pure su Oblivion, c'è, cioè, il tizio che muore per terra vicino alla porta, chiudi la porta e quello si accartoccia intorno alla porta. Cioè, succedevano delle cose, che ne so. Io Skyrim mi ricordo un topo volante nella prima caverna in cui sono sceso e non era un pipistrello, cioè proprio un topo che invece che camminare volava. Tu considera che io lo racconto sempre, ma il mio primo, anzi il mio secondo behemoth su Fallout 3, io l'ho ammazzato perché gli ho tirato una granata, lui è schizzato in cielo, è rimasto bloccato in cielo, io da sotto col fucile pa pa pa pa fino a che non è morto praticamente. Quindi insomma, alla fine, se vai a vedere, no, cioè nel senso, io capisco poi le perplessità di tantissimi, però poi al gioco, diciamo, quello vero ci arriviamo dopo, perché qui il problema è che, appunto, dicevamo un po', parlavamo un po' delle perplessità, poi perplessità, e qui voglio cercare di fare un ragionamento con voi, cioè nel senso, io ho una mia idea e voglio vedere se la condividete o se la stroncate tutti quanti, perché è chiaro, insomma, che gli anni di sviluppo sono stati lunghi, probabilmente si sono suddivisi su X numero di porting, insomma, di varie versioni e via dicendo, però un gioco che nasce all'interno di una quasi neonata generazione e che quando esce in quella generazione, che è diventata nel frattempo la vecchia generazione, il gioco fondamentalmente non funziona. Secondo me non c'è semplicemente un errore di progettazione, alla base c'è un'idea che si è trasformata costantemente durante gli anni, arrivando a un punto in cui probabilmente anche tecnicamente hanno perso il controllo. Perché io immagino che un videogioco, quando tu lo sviluppi, a seconda della macchina dove la vai a sviluppare, sai che ci sono determinati prerequisiti e oltre un certo tipo di livello tu non puoi andare, no? Quando tu invece questo progetto continui a trasformarlo ed aggiungerlo, a farlo crescere oltremodo, rendendolo totalmente incompatibile per la macchina nella quale poi era stato, diciamo, inizialmente anche presentato, c'è qualcosa che non funziona a livello proprio di preproduzione più che di produzione, oltre al fatto che negli anni di sviluppo, secondo me, questi a un certo ogni tanto cambiavano proprio idea, diciamo così. Non so, sentiamo, partiamo da Leo e poi voglio sentire il parere di tutti quanti. Intanto saluto in chat sia Arturino Mazzei, che lui dopo, cioè lui mi ha fatto un'osservazione, dopo ci ragioniamo. Salutiamo Vargion, Piergi e Francesco, anche, che vedo che sono arrivati in chat. Vai Leo. Tu chiaramente, Simone, parli delle povere PS4. Sì, parliamo delle versioni, quelle più subito malamente. Esatto. Sia normali che pro, tra l'altro. Ho i miei dubbi su questo e penso che ci siano delle speculazioni da fare a riguardo, perché sembra quasi come se negli ultimi anni, facciamo che ne so un anno e mezzo, quando la PlayStation 5 e le console di generazione nuova sono cominciate a diventare un po' più una realtà, no? Qualcosa che era alle porte. Io credo che CD Projekt Red abbia, anche insieme a Sony ed eventualmente a Microsoft, a fare magari due conti, dicendo ok ragazzi, magari proviamo a portarlo sulle nuove di console, visto che ci siamo quasi, e deve esserci stato un problema a metà di questo percorso, perché mi sembra strano che tu comunque inizi a fare un gioco nel periodo, diciamo, di media vita, perché ormai insomma parliamo 2015-2016, quando il gioco era lo stavano iniziando a fare, stavano, diciamo, un quarto, a metà così, e la PS4 era insomma ancora nel pieno della sua vitalità. Eh sì. In quel periodo là io credo che lì il gioco fosse realmente per PS4 e poi si sia cominciato a tramutare in un gioco per PS5, poi per qualche motivo hanno fatto un passo indietro e gli è costato caro sulle console di vecchia generazione. Deve essere successo qualcosa del genere, perché mi fa strano che una software house inizi a fare un progetto per una console e poi scopra all'ultimo momento e dice ups, funziona male. Mi sembra molto singolare. È questo che dico, perché secondo me lì loro hanno cantonata completamente la questione, perché il gioco non cioè sul PS4 c'è il lockdown, sulla patch compatibile su PS5 il gioco va sicuramente meglio, però praticamente il gioco non è né per PS5 né per PS4, cioè nel senso le versioni next gen non sono ancora uscite, però appunto l'update PS5 arriverà dopo marzo, pare, quindi. Però c'era già la patch di compatibilità. Cioè, credo quello che voglio dire. Sì, però, tu su PS5, sì, però se tu PS5 fai girare la versione PS4, il gioco è meglio, rispetto al gioco che dovrebbe, perché è più potente la console. Esatto. Ma in realtà le funzioni che dovrebbe avere, tipo la variante RTX di PS5, l'HDR, non ci sono. No, sostanzialmente tu giochi al massimo frame rate possibile gli enhancement per PS4 Pro, tutto lì. Sì, infatti è quello che dico, cioè, quindi non hanno completamente cannato un intero blocco, cioè che era un blocco di riferimento all'inizio, e come dice giustamente Leo, secondo me loro a un certo punto hanno detto vabbè, ma andiamo su PS5, poi no, raga, gliela famo. Mi sono fatto un'idea un po' maliziosa analizzando questa cosa, facendo un po' di ragionamenti collaterali, posto che poi sono usciti tanti altri giochi molto validi, molto belli, che hanno comunque saputo sfruttare l'hardware di current generation a pieno. Io ho l'impressione che a un certo punto tutto sia nato da un fatto, e questa è un'interpretazione che potrete sicuramente opinare, però ho questa sensazione: quando sono state immesse sul mercato PlayStation 4 e Xbox One, secondo me si è voluti essere un po' troppo, come dire, un po' troppo superficiali, nel senso che l'hardware di entrambe le piattaforme era forse anche all'epoca della loro uscita troppo sommario e troppo poco potente. Quando PlayStation 4 e Xbox One sono uscite, erano già non più potenti, diciamo, non paragonabili a qualcosa di più di un PC di media configurazione dell'epoca, e soprattutto perché poi allora AMD, le architetture Jaguar di AMD sì, andavano bene, ma erano ancora comunque molto indietro rispetto a quelle di Intel. Insomma, certe scelte erano sicuramente più che altro per salvaguardare la questione economica prima di ogni altra cosa. Quindi secondo me, e questo spiega anche come mai poi siano nate le mid generation di console, questa è una mia interpretazione, dopo menatemi pure, però io ho l'impressione che a un certo punto, dopo 3 anni di vita della PlayStation 4 e dell'Xbox One, qualcuno si sia reso conto che con quell'hardware tirar fuori veramente belle cose per altri 4 anni in paragone a quello che si poteva fare con i PC sarebbe stato veramente veramente faticosissimo. Ed eccoti quindi le mid generation. In questo contesto si inserisce Cyberpunk, che è stato annunciato prima ancora che uscisse la PlayStation 4 e l'Xbox One, e che quindi si suppone dovesse avere quelle per piattaforme di riferimento, anche perché era su quelle piattaforme che avevano più chance di vendere copie. Ovviamente il mercato PC è quello dove ottieni le performance migliori in termini di prestazioni del gioco, ma è anche quello dove vendi meno copie complessivamente, quindi era immaginabile che puntassero tutto lì. Però qualcosa deve essere appunto cambiato nell'arco dello sviluppo, come anche Simone ha subodorato, ma come sembra abbastanza evidente. Un po' sarà una sorta di eccesso di perfezionismo, un po' sarà il bisogno di... O dilettantismo anche, sentiamoci pure quello, perché... Sì, certo, ma anche del fatto di voler riallineare ai tempi il prodotto, perché se tu il prodotto lo annunci nel 2012 e a un certo punto ti rendi conto che uscirà nel 2018, 19, poi 2020, è chiaro che devi cercare di spingere in avanti le prestazioni, perché sennò esci con qualcosa di vecchio al lancio ed è una cosa assolutamente sbagliata quando hai investito tutti i soldi che sono stati investiti in Cyberpunk. Poi le cose possono uscire meglio, possono uscire peggio. In questo caso la situazione gli è completamente scappata di mano ed è venuta fuori una versione un po' tragicomica del gioco, che sarebbe stato comunque un successo. Secondo me è stato comunque un successo, ma che ovviamente... questa però macchia un po' la reputazione. In questo momento, no? Sì, però... No, dico... Vai. Siamo in un periodo storico in cui abbiamo bisogno di parlare di qualcosa, e quindi probabilmente ci siamo fatti tutti quanti anche prendere la mano. Abbiamo trasformato un mezzo disastro in qualcosa di peggio di quello che era nella realtà, soprattutto se, come dite voi, anche Bethesda, anche altri software house ci hanno abituato al lancio di giochi disastrosi. Non avevamo mai fatto una questione ideologica come abbiamo fatto con Cyberpunk, forse perché, ripeto, il momento storico ci porta ad avere più tempo per... No, guarda, sta sicuro che ho visto polemiche peggiori per il finale di Mass Effect 3, quindi, cioè, nel senso, il problema qui è che oramai è è una community che è abituata anche troppo da questo punto di vista, no? Il problema è che qui a buon ragione comunque, perché allora in chat adesso sentiamo l'opinione di Puccio, però prima di sentire l'opinione di Puccio io dico anche in chat c'è Marble Madness, che se non ricordo lui comprò la versione PS4 e tutti quanti nella chat di Ludico Forum gli abbiamo detto cioè lui diceva no, cioè Night City in lockdown non si può vedere, no? Perché c'era questa cosa, c'era il coprifuoco, no? c'era poca gente. Allora gli ho detto scusa, ma vai a riportare, no? Nel senso, l'aveva comprato tipo da Media World, adesso non ricordo. E lui ci chiede anche: ma su Xbox One X è la stessa cosa? Cioè, io penso che il problema sia proprio le console di quella generazione. Non credo sia un problema di PS di PlayStation. No, allora vi posso dire direttamente: Series X e Series S gira. Su Series X, penso che lui si stia riferendo alla Xbox One X, quindi alla sì. Mid Generation. No, quello Xbox. Non ve lo so dire. Mid Generation. Ah, io so che su PS4 Pro e su Xbox One X va molto meglio. Sì, ma il molto meglio Pro, ma no, cioè, molto meglio relativamente. Sì, è sempre su PS4. Allora, ragazzi, il problema è che dobbiamo distinguere un po' di cose tra loro. Se parliamo di cali di frame rate e cose del genere, lì è un problema di prestazione dell'hardware, quindi si risolve con l'hardware più potente e quindi con le mid gen le cose vanno decisamente meglio. Se parliamo dei bug, quelli per la fisica calcolata male, per i glitch, per gli errori di programmazione, noi stiamo parlando un gioco che oggettivamente è un terzo di quello che sarebbe dovuto essere, perché l'ambientazione, il background, alcune situazioni chiaramente sono mancanti per ovvie ragioni. Comunque, al di là di questo che l'abbiamo un po', volevo sentire l'opinione di Puccio e poi andiamo magari anche avanti, perché poi cominciamo a parlare pure un po' del gioco, anche se ho un'altra domanda sempre da un altro ascoltatore che voglio sapere l'opinione di tutti quanti. No, secondo me CDPR... il problema serio ce l'ha avuto in ambito management più che altro. Secondo me si sono trovati con chi gestisce i soldi dell'azienda, che a un certo punto ha detto doveva andare su PS4 e su Xbox One perché sono quelle che hanno la base di installato più grande. Dobbiamo però già andare sulla next gen perché ce lo stanno chiedendo, perché se non mi sbaglio loro sono stati tra i primi ad avere i kit di sviluppo sia per le nuove Xbox sia per PS5, e in più dobbiamo comunque coltivarci la parte PC. In tutto questo credo si sia creato un gigantesco cortocircuito di sviluppo, e i risultati sono stati che tutta la parte sviluppata per PC o simili, cioè l'Xbox, è andata mediamente bene. Tutto quello che richiedeva un ciclo di sviluppo completamente diverso, che era quello PS4, è andato malissimo, i risultati li abbiamo visti. Allora, Giuseppe, questa è l'opinione, voglio sapere l'opinione di tutti sempre. Giuseppe Pugliese fa il raffronto tra la versione Cyberpunk, tra la versione PS4 di Cyberpunk 2077 e No Man's Sky. Io ho una mia opinione. No, aspetta, neanche con ordine. Io ho la mia opinione, poi dopo ognuno dice la propria. E Arturino Mazzei dice che il gioco era oggettivamente non pronto in generale, sia su PC che su console, ma in particolare su console, e che probabilmente è stato fatto uscire per ragioni di licenze, perché c'era il rischio che questa licenza poi scadesse in qualche maniera. Ci potrebbe essere questa opportunità? Leo, iniziamo da te. Io innanzitutto però comincerei da una cosa importante, che noi usiamo sempre questi acronimi alla fine di CPM, e prima o poi ci scappa sempre alla fine, ho visto pure nelle puntate precedenti, il CPM è sempre ma fino a che non esce il PD, vabbè, lo vuol dire decreto con presidente del Consiglio dei Ministri, perché potrebbe significare anche altre due cose. vai comunque. Allora, io non so esattamente, poi è chiaro, queste sono cose che magari scopriremo chissà tra anni, magari non tanto sul fatto del in sé del fatto che sia stata venduta la adesso non mi viene il nome, l'avevi detto te un attimo fa, Simo, aiutami, la licenza la proprietà intellettuale o licenza di Cyberpunk, quanto magari piuttosto degli investitori e delle pressioni grosse da parte di Microsoft e Sony, perché quando ci si mette con comunque chi ha le console, le pressioni sono sempre tante e sono sempre stati lanciati spesso giochi troppo anticipatamente per via del fatto che loro vogliono il giochino in quel momento, lo vogliono magari prima del periodo natalizio perché a Natale si vende, o prima del periodo estivo perché il periodo estivo è un altro periodo grosso in cui le vendite si fanno. Io penso sia stato più quello, e magari anche, che ne so, gli azionisti di CD Projekt hanno detto: ragazzi, noi abbiamo comprato le azioni, qua vogliamo fare, vogliamo il nostro trimestrale staccato grosso a fine Natale. Quindi la vedo più così. Beh sì, forse c'è sta anche un motivo di discorso, perché poi ecco, forse questo accomuna Cyberpunk 2077 a No Man's Sky, cioè il fatto che il gioco doveva uscire, cioè nel senso, e questo è abbastanza chiaro. E invece Walter, quale può essere la tua opinione, chiaramente? Tu No Man's Sky lasciamo perdere, perché tu probabilmente non conosci bene il caso, quindi oddio. Sì, molto relativamente, mi è interessato molto poco. No, invece, per risponderti sulla questione licensing, io non ho questa visione per due motivi, poi sbaglierò. Il primo è che comunque non stiamo parlando di Warner Bros. Con le licenze di J.K. Rowling, quindi si deve sbrigare a fare i film di Harry Potter. Stiamo parlando di una proprietà intellettuale, sì, importante nel suo microcosmo, nella sua nicchia di appassionati, ma che insomma non è che avesse tutta questa pressione da fare su CD Projekt o altro. Senza contare che normalmente, o perlomeno in altri casi, quello che vincola il rinnovo di certi accordi di licensing rispetto alla cessione non è necessariamente solo la pubblicazione, ma sono una serie di milestone produttive che vengono stabilite per contratto di passo per passo. Dubito che il problema fosse dobbiamo uscire per forza perché altrimenti perdiamo la licenza. Secondo me il problema è stato tutt'altro, cioè anni che CD Projekt lavorava su questo progetto, anni che pagava risorse in numero significativo, quindi che pagava stipendi. Era arrivato l'ennesimo Natale in cui, se non uscivi, chiudevi un altro anno fiscale con dei problemi da un punto di vista dell'investimento, e si sono detti: ora mai più. Senza contare che nel frattempo a Sony e Microsoft faceva anche piacere che si parlasse di qualche cosa che non fossero le console che non si trovano, perché il lancio delle nuove console è stato molto importante in termini di numeri, però è stato anche secondo me penalizzante. Ne avessero avute il triplo, il quadruplo, ne avrebbero venduto il triplo, il quadruplo, non ce l'hanno avuto, quindi c'è stato anche lì un problema dal quale distogliere le attenzioni. C'è il Covid, dici? Secondo me comunque anche questo un po' ha influito, perché io non penso, cioè, che Sony arrivi alla presentazione della console e avendo una sottoproduzione, no? Secondo me qualche problema in generale c'è. Il problema, sì, il Covid ha influenzato la produzione soprattutto dei wafer per i chip semi-custom che montavano sia la PlayStation che la nuova Xbox, quindi c'è stato un problema di approvvigionamento a monte, ma questo si sapeva già dall'estate che ci sarebbero state poche componenti, poco sì, da fare. Infatti. No, io sono abbastanza convinto che sia Walter che Leo abbiano ragione su questa cosa qui, anche se però per onore, diciamo, di memoria storica, ricordiamo che nel passato nel mondo dei videogiochi problemi legati alla licenza ce ne sono stati, soprattutto Interplay, no? Che aveva le famose licenze di Star Trek, e le licenze nel mondo dei videogiochi come funzionano? Tu compri la licenza, c'hai 5 anni per sfruttare quel tipo di marchio. Scaduti i 5 anni, aspettate, fermi, a sto giro di Paramount non avevi gli editori di Cyberpunk. No, ragazzi, a sto giro non è andata così, cioè, no, appunto, no, io preso i diritti i diritti di Cyberpunk 2020, il gioco di ruolo, erano un bordello per altri motivi, perché Pondsmith, il tizio che l'ha sviluppato, diciamo, nelle varie edizioni del gioco aveva fatto un po' di macelli tra case editrici a cui aveva dato i diritti, come li aveva frazionati, perché aveva affidato a più agenzie diritti per prodotti diversi, tipo per il cinema, la TV, diciamo. Se lo ricorda anche State Libri in Italia, per chi è rimasto. Miseria, cioè io me lo sono dovuto comprare americano quando mi sono perso la copia mia della State Libri, perché non si poteva più ristampare, per dire il bordello che poteva esserci dietro. Ma il problema non è stato quello, perché poi quando CD Projekt Red ha mandato i suoi avvocati a fare il rastrellamento dei diritti, il problema l'hanno risolto, li hanno ricompattati, e ora versano, se ho capito bene, delle royalty al creatore del gioco, ma il brand è loro, che io ricordo. Okay. Quindi non è l'hanno proprio acquisito? Sì, non è più un problema di diritti nel caso di CD Projekt Red, che potevano sfumare. Il problema è diventato il consiglio di amministrazione dell'azienda, perché poi loro sono cresciuti tantissimo in una realtà relativamente piccola come quella della Polonia, e gli investitori polacchi, che immagino non siano tantissimi, gli avranno fatto pressione. Loro hanno cercato di andare sul più ampio numero di ambienti possibili. Un paio sono venuti bene, più che molto bene. Uno in particolare è venuto malissimo. Allora, in chat Lucio dice che vabbè, la community ha fin troppa voce in capitolo, ma questo noi lo diciamo da anni, cioè nel senso, se noi equipariamo, è vero che un videogioco è un'opera commerciale, ma a volte può anche essere un'opera autoriale, no? Non è che tu vai da David Lynch e gli bestemmi contro e lui ti cambia il finale del film, no, facciamo anche questo raffronto qua. E Arturino Massei, che però io ricorderei che lui è insider a Sony, cioè quindi se dice una cosa probabilmente continua a sostenere che il gioco doveva uscire nel 2020 per questione di licenza, cioè lui continua a sostenere questa cosa, quindi evidentemente qualcosa, un minimo ci sarà anche su questo, anche se tendo a essere comunque d'accordo più con voi, no, su questa cosa qui, perché probabilmente è più proprio una questione di depressione anche finanziaria su un progetto che io non so, non c'ho la percezione, ma non penso che sia costato 10.000 lire, insomma, una cosa del genere. Invece, ripartendo da Leo, secondo te il raffronto tra Cyberpunk e No Man's Sky, secondo te ci vuole un senso? Secondo me no, diciamo così. Io direi che sono due disastri differenti. Esatto, sono lo stesso problema per motivi diversi, diciamo così. Sì, sì, ma poi c'è anche la community di mezzo per Cyberpunk, perché Cyberpunk, diciamo che hanno creato un hype enorme che è durato anni, e secondo me l'hype ha anche una curva, no? Che devi un po' seguire se vuoi produrre qualcosa, perché la gente dopo un po' l'hype a un certo punto sparisce, quindi devi calcolare che se non lo tiri fuori in una certa con una certa tempistica, la gente finisce per svegliarsi e dimenticarsi del tuo prodotto. No Man's Sky invece ha avuto questo hype un po' più pressato, quindi l'hanno seguito meglio l'hype della gente, magari era un po' meno, però era un disastro di livelli, insomma, un po' più un po' maggiori, secondo me, almeno, perché era veramente veramente incompleto. Cyberpunk, secondo me, con 5-6 mesi diventa al bacio. E, sai, quanto ci hanno messo per No Man's Sky? Mi sa un paio d'anni, insomma. Beh, però c'è un discorso di proporzioni anche. La software house di No Man's Sky non è esattamente CD Projekt di adesso. Sì, però era una cosa sponsorizzata direttamente da Sony, anche, quella, insomma, quindi. Cioè, diciamo, ricordiamoci che No Man's Sky di Cyberpunk, che dovevano fare una strada alla volta, un palazzo per volta. No Man's Sky ha, tra virgolette, il vantaggio che sia procedurale. Esatto. Quindi, però, teoricamente 20 persone non si devono staffare la città nei minimi dettagli. No, è vero che c'è un'intera galassia, però è vero pure che è una galassia procedurale. Sì, sì, ma quella infatti è così. L'unica cosa è che ricordiamo che No Man's Sky era, diciamo, sponsorizzata proprio in primo stage da Sony, cioè Sony ci ha messo la faccia su quel gioco, quindi noi, come tante volte, è uscito prima per PC No Man's Sky, era esclusiva PlayStation 4, tant'è che io è stato l'unico gioco che ho comprato al day one, perché ero intrippato di sto gioco, perché l'avevano pompato tantissimo, l'avevano caricato, ci ho giocato 30 ore, quindi vuol dire ci ho anche giocato. A un certo punto sono detto, ma che cazzo sto a fare? Cioè, c'è niente. Sto raccogliendo il carbonio. Era un sandbox senza sabbia, purtroppo. Ti presentavi con la paletta, il secchiello, felice, e poi arrivavi e c'era la sabbia. E noi ne parlammo, non so se su dietrologia videoludica o su videoludica, ne parlammo, perché noi ci immaginavamo sta scena dei ninja della Sony che entravano dentro la software house, che adesso non ricordo neanche chi cazzo so. E l'hanno ammazzati tutti, cioè nel senso, tu morto. No, ma loro per due mesi sparirono, perché esatto, il backlash della fanbase fu particolarmente violento e odioso, come in tutti questi casi. Sì, però che cazzo, il gioco si costava 70 euro, raga, cioè dai, io lo sapete, non incentivo mai, cioè secondo me è tutto molto sempre proporzionato, però cazzo 70 euro per un gioco che non ci stava però niente. Sai, cioè, d'accordo, però vabbè, ok, ci sono pure passati 3-4 anni, però adesso è il gioco che prende i premi come il miglior ongoing tra quelli sul mercato, perché comunque l'hanno arricchito veramente di tantissima roba. Io ogni tanto me lo sono ricomprato per PC durante un'offerta, e devo dire, c'è molto da fare, è molto diverso come gioco. cioè di quello che abbiamo visto noi su PS4 è rimasta l'ossatura, ma tutto il resto è un altro prodotto. Comunque ragazzi, scusate, io stavo leggendo in chat perché secondo me alla fine ci accorgiamo che il discorso che facevamo noi e quello di Arturino convergono, perché lui dice che, tornando al discorso, c'erano state delle pressioni finanziarie perché i costi di produzione erano stati ripagati con i preordini e quindi si doveva approfittare del Natale 2020 per uscire, quindi poi tutto sommato il discorso fila, cioè hai preso i soldi in anticipo da tante persone e hai creato hype, il gioco lo devi far uscire perché sennò poi succede una caporetto di quantomeno di immagine, anche perché se ti pago prima e tu poi mi rimandi il gioco, finisce che poi o ti smerdo e ti chiedo i soldi indietro, o una delle due cose, insomma, per un'azienda quotata in borsa non è una buona cosa. Sapete chi non si sta vabbè, però la borsa polacca, facciamo un po' di becero umorismo razzista anche un po', no? ok però sapete chi non si sta ponendo proprio il problema, visto che l'abbiamo citato proprio due minuti fa, quelli di Star Citizen, esatto. Perché, cioè, mo ve lo dico, io ci avevo pure creduto in quel disastro al rallentatore, però loro, a me ha cominciato a puzzare di bruciato quando hanno creato un loro sistema di raccolta fondi scollegato da quelli mainstream. Cioè, vabbè, tu sei, dai, regà, lì non è, scusa Puccio, ti interrompo perché qui apriamo un capitolo gigante sul quale torneremo e ci siamo già andati sopra, perché, e non ci siamo andati piano, perché chiaramente il capitolo di Star Citizen è complicato, cioè non... Allora, però dico, cioè, noi nel caso di Cyberpunk, qualcuno che presumibilmente i soldi te li può dare indietro, ce l'hai, anche se avevi fatto il preordine. Nel caso di Star Citizen, se non esce più, chi te li ridà? Perché le clausole nei preordini e negli acquisti di Star Citizen, ma non c'è scritto da nessuna parte che il gioco non è un'opzione, questa voce. Andiamo a prendere Chris Roberts a casa, tutti quei forconi, credo che quei soldi non può non farlo uscire in questo momento, può veleggiare su Marte. È l'unico farà un gioco che fa la storia dei videogiochi avendo incassato più di 200 e passa milioni di dollari di un gioco che non è uscito, cioè è una cosa, bravo, io, ma indipendentemente da come la pensate, se lo amate, se lo odiate, tanto di cappello. Comunque, è un po' come quello che è sparito con 800.000 euro di PlayStation vendute e mai possedute. Sì, vabbè, ma insomma, poi lasciamo perdere, quelli sono altri discorsi. Pure in Inghilterra ha fatto beneficenza, ha detto. Esatto. Comunque, vabbè, stiamo proprio andando completamente. Adesso andiamo a parlare del gioco, finalmente, perché a un certo punto iniziamo a parlare anche del gioco. Anche se Arturino Mazzei ci dice che Naughty Dog si è trasferita a Varsavia, ragazzi. Cioè, non so se è la battuta o se è la verità, ma sta cosa mi inquieta. Insomma, però Naughty Dog, insomma, per ora rimangono veramente, per ora so, i più seri di tutti da quel punto di vista. Perché ricordiamo che Sony ha investito la propria faccia su Quantic Dreams, su tanti soggetti che poi alla fine, insomma, non sembrano. Però Simone, quando devi sviluppare su una sola piattaforma è tutto più facile, tant'è che Naughty Dog è famosa perché da ogni generazione di PlayStation ha spremuto il sangue dalle rape oltre quello che pensava possibile. È un merito pure quello, cioè, sì sì, per carità, però ripeto, quando devi sviluppare su una sola piattaforma è un po' come sviluppare per Apple, è un ambiente chiuso, devi fare solo quello, ti servono un terzo delle risorse, non devi delegare all'esterno niente. Comunque se dice in Apple, qualche modo è più facile. Si dice Apple, hai capito? Apple si dice, ok, devi fare il californiano quando parli con me, sennò... vabbè, dai, allora iniziamo a parlare del gioco. Allora, senza far spoiler, la storia, di che cazzo parla sto gioco? Chi è che vuole? Faccio io. Vai, tu che sei sempre il... E poi dopo Leo e Walter se vogliono aggiungere qualcosa. Vabbè, in pratica, a seconda delle tre strade che si può... Sì. E niente. Carmine? Niente, si emoziona e sparisce. No, eri risparito. Mi ricorda Francesco una volta in Grand Time the Notte. Iniziare a raccontare la storia. Diciamo il rispettivo personaggio, così magari lo iniziamo da tre punti di vista diversi. Io l'ho detto, ho fatto il corporativo. Ok. Io ho fatto lo street kid. Ok. E quindi siamo proprio perfetti. Ognuno ha fatto una cosa. Tu hai fatto il nomade, sì. Ho fatto il nomade, sì. Anch'io ho iniziato il nomade. Sono i tre incipit possibili, li abbiamo fatti tutti. Perfetto, che qui è positivo, insomma. Vabbè, allora, innanzitutto l'ambientazione. Ho visto quello degli altri, ecco. L'ambientazione dove parlavamo di licenze è quella di Cyberpunk 2020, che poi, insomma, sì, che è diventato 2077. così, anche giustamente. Anche purtroppo le katane monofilari nel 2020 ancora non ci sono ed è un rimpianto. Ma manco nel 2076. Vabbè, comunque è un problema. Allora, tornando a noi. Sì, ambientato. Ma neanche la Gibson Battle Gear c'è, tra l'altro. Vabbè. Vero. Allora, è ambientato 57 anni dopo gli eventi del gioco cartaceo. In realtà, tra questo gioco, tra il videogioco e il gioco di ruolo cartaceo, c'è un progetto parallelo di CD Projekt Red, che è Cyberpunk Red, che è ambientato circa nel 2050, che è un gioco cartaceo, di cui per ora è uscito solo il Jumpstart Kit, che in questo momento ho in mano. Dove più o meno vengono spiegati un po' di antefatti storici che poi portano al 2077. La trama parte in maniera diversa a seconda della via che si è scelta. Ripeto, io ho fatto il ragazzo di strada, anzi vita di strada, l'hanno tradotto in italiano, parte da un heist movie, quindi da un furto su commissione che viene commissionato al tuo personaggio e al suo, diciamo così, migliore amico, in realtà incontrato da poco, ma con cui leghi immediatamente. Non siamo in zona spoiler, perché questo succede nelle fasi iniziali ed è stato raccontato ovviamente. Il furto porta a una conseguenza estremamente grave per il tuo personaggio, che lo porterà a dover convivere con una persona morta diversi anni prima, responsabile di un attentato terroristico. Gli eventi ti porteranno in una determinata direzione, non possiamo dire di più perché veramente ogni passo può portare a uno spoiler sanguinario, però la trama viene gestita molto molto bene, perlomeno nei primi due capitoli. Io devo fare solo la missione finale, vabbè, ho preso. Parla più che altro, la trama viene diluita all'interno delle avventure che si possono vivere all'interno di Night City, che è veramente la protagonista del gioco più che del tuo protagonista. Ok, io ti sento male però, eh? Comunque vabbè. Sì, confermo. Sento male poi, a volte vi ricordo per un attimo. Forse so io che... Però io ho chiuso Google Drive, quindi... Oh, aspettate, controllo se c'ho qualcos'altro. Intanto Leo. Io parto da un punto differente, io parto da fuori la città. Dal deserto, ovviamente, come sì, nel deserto, nelle Badlands credo si chiamino per sì. La versione inglese originale del cartaceo. E nelle Badlands, poi correggetemi voi, tra l'altro, perché voi siete quelli che hanno giocato al cartaceo, non l'ho mai toccato, quindi parlo da assolutamente inesperto in quello. Ma da quanto ho capito, è un lavoro abbastanza comune quello di fare lo smuggler, quindi di trasportare cose per gli altri, per le persone che vivono nel deserto, o sbaglio? Sì, ma c'era anche nella versione cartacea. Esatto. Con la differenza, okay, che però gli eventi che ti portano alla situazione che vedi in Cyberpunk 2077, mm-hmm, hanno fatto in modo che la distanza tra le città sia diventata molto più grande, cioè le zone desertiche disabitate o popolate solo dai nomadi ora sono molto più estese. Diciamo, le città sono molto grandi, ma molte meno numericamente. Cioè secondo me l'introduzione migliore al gioco non è neanche tanto Cyberpunk Red, che per quanto ripeto non sia ancora uscita la versione definitiva del manuale, quanto il World Book che è uscito un po' di tempo fa, il mondo di Cyberpunk 2077. In Italia lo ha tradotto e pubblicato la Panini, perché ti spiega perché sei in quella condizione in Cyberpunk 2077 quando il 2020 era molto diverso. Cioè ti racconta le guerre corporative, cosa è successo alla rete, perché che un po' lo fa anche il gioco, un pochino. Se andate a frugare specialmente negli shard eccetera, lì si trovano un bel po' di cose interessanti. Ma diciamo però che l'inizio in realtà del nomade si unisce molto velocemente con il resto della storia, perché tu, Puccio, hai raccontato un pochino di più, sembra che la parte dello Street Kid sia un po' più estesa. Invece, diciamo, dopo il colpaccio iniziale che tu fai, che è appunto un trasporto, naturalmente, quindi devi portare dalla zona esterna alla città, dall'anello esterno in città, un qualcosa, che non diciamo cos'è, un qualcosa di vivo, che è molto divertente tra l'altro quella parte lì, e da lì cominci con, ti agganci col resto della storia e parti con, sai, quel flash forward che fa il gioco, che secondo me quello è anche content tagliato tra l'altro, potrebbe essere magari in DLC in futuro. Finito quel primo atto, che è molto molto breve, ti fa quel flash forward di 6 mesi e poi si unisce col resto della storia, che immagino sia identica per tutti, a parte magari qualcosina, qualche commento che puoi fare. L'intro del Nomad differente. È proprio breve, cioè, però se tu vuoi e vai in giro a cazzarale per il deserto trovi un sacco di kick, questo... E le macchine dei Nomadi, ragazzi, battono, sono le più belle di tutti, belle e vanno su tutto. Vanno su tutto, cioè ci sono arrampichi su una montagna, sono un po' una panda 4x4, vanno su dove la mandi, funziona. Che poi c'era cosa, c'è Yotobi che si è fatto a piedi dal deserto fino a tutta Night City. Sì, si è fatto la diagonale. Sì. Ci ha messo un'ora e mezza. Un'ora e mezza, però secondo me, vabbè. Cioè, in realtà, secondo me... Ma in realtà quando ti fai la diagonale non è vero che ti fai tutte le strade, infatti, però, Sì, no, ma infatti va bene. Vabbè, sì, tagli, sicuramente. Però fatevela a piedi, se avete la possibilità, chiaro, poi magari uno non c'ha tempo da perdere, a volte usa il teletrasporto, però se avete l'opportunità fatevela a piedi, perché ogni angolo della città è veramente, ogni angolo ha qualcosina da regalare, magari una cosina, una fesseria, un negozietto, qualcosa anche se, da vedere. Anche se GTA 5 ancora oggi secondo me rimane per me non si batte, un caso assoluto, perché io ho visto veramente se tu veramente te ne vai in giro, ma pure sulla montagna, sentierini, cioè una quantità di dettaglio che tu dici non lo vedrai mai nel gioco, eppure c'è, sta lì, cioè veramente tanto di cappello. Ma non è un caso se per la terza generazione di fila GTA 5 uscirà anche, infatti c'era la porta, siamo a 3 generazioni di, però è vero che l'online quando te ne vai in giro fai il role playing, che tra l'altro mi sono informato dopo che me l'ha detto Leo l'altra volta, insomma devo dire che è divertente ancora oggi, funziona, il cazzo di gioco che funziona, alla fine ti unisce le poste o ai carabinieri, hai deciso? No ma ancora non ci ho messo mano, devo dire la verità, però con Gualdi stiamo ipotizzando, insomma. Sì ho visto la cosa dei carabinieri, fantastico, grandi. Vabbè, torniamo al gioco. Quindi, vabbè, il Nomade, tu hai fatto il Nomade, Walter, tu il corporativo invece come sei? Io ho fatto e poi perché hai fatto il corporativo? Sembra uno zozzone, cioè. Perché volevo fare il personaggio infame, volevo godermi l'essere infame, mi volevo godere anche la mia tessera platino del Trauma Team, se permetti, una volta nella vita privilegiato. Certo. Se non che in realtà il prequel del corporativo dura veramente poco. Comunque salutiamo Girasole in chat, grande. Oh, ciao Girasole. Che cazzo ci sta a fare Girasole in chat, vabbè. Ok, scusa, vai. La trama è di quelle banali da un punto di vista della sceneggiatura. Inizio come membro della Arasaka Corporation, quindi insomma, me coglioni, non so se mi spiego. Anche un membro abbastanza in alto, diciamo, dell'elite, non è che sono l'ultimo degli impiegati, sono un corporativo di un certo livello, tant'è che inizio svolazzando su una sorta di limousine volante con tanto di secchiello di champagne, eccetera, che mi porta da casa in ufficio alla Arasaka, dove posso visitare subito il mio ufficio, farmi un po' un'idea di come sono bello, andare in bagno e guardarmi allo specchio nel mio completo da corporativo del 2077, tutto molto bello. Chiaramente basta un dialogo col mio superiore per trovarmi nei casini, perché ovviamente in un posto fatto totalmente e inevitabilmente di arrivismo e di persone che ti pugnalano alle spalle o possibilmente anche in pieno volto se ne hanno l'opportunità, è chiaro che devi vivere con l'ansia e non ti puoi fidare di nessuno, tant'è che insomma bastano poche scene e mi ritrovo nel mio appartamento con praticamente più nulla e con la mail del padrone di casa che mi ricorda che devo anche pagare l'affitto se no mi cacciano, e lì insomma a Night City sono piuttosto spiccioli, se non paghi l'affitto la porta non si apre più, quindi insomma ti devi reinventare una vita. Mi spogliano di tutto quello che era mio come corporativo, compresi gli impianti cibernetici, quindi sostanzialmente mi ritrovo con niente se non 4 stracci addosso e il tentativo di scappare da chi fondamentalmente mi ha fregato e vuole finire l'opera. Figo, figo. Ah, non, beh, quindi è anche più interessante di quello che mi immaginavo. Invece Puccio è il bad boy, quello della, il ragazzaccio della strada. Sì, ho fatto il bad boy. No, quello che si aggiusta il naso due volte. Ritorna da, da un periodo fuori Night City perché ha provato a rifarsi una vita in Europa, tra l'altro. Non è andata bene ed è costretto a ritornare a Night City e viene rimesso immediatamente al lavoro da, da un fixer particolarmente importante, tra l'altro latinoamericano, con una fede religiosa abbastanza evidente, e quindi viene rimesso immediatamente sulla strada dove incontrerà Jackie e poi, diciamo, le trame si uniscono, come, come accade a quella del corporativo e a quella del nomade. Ma quindi tutti avremo a che fare all'inizio con Jackie? Sì, sì, assolutamente. Beh, sì, è il personaggio. Da Jackie si unisce la, la storia. Esatto. In pratica, il nomade è l'unico poraccio che rimane poraccio dall'inizio alla fine. È coerente, il nomade è coerente. Vabbè, però almeno il viaggetto in Europa, insomma, almeno quello. La vacanzetta. Allora, ragazzi, parliamo. Jackie, che ricorderò come il primo baggone del gioco, perché mi, a una delle prime missioni mi si è piantato davanti a una porta di una stanza, non mi permetteva di uscire. Sparava all'impazzata con le sue armi infinite, non colpendo mai nessuno, perché Jackie è uno stormtrooper mancato. E niente, non potevi, non potevi andare avanti se non ricominciando dal checkpoint, perché non uscivi da quella stanza. Lui non uccideva i nemici, non si spostava. Così, vabbè. Scusate, ragazzi, parleremo. Due domande al volo, visto che nessuno di noi ha fatto il personaggio donna. No. Sì e no. Grande, sì e no. Grande Leo. Volevo arrivare qui. Simone ne sa qualcosa perché ha visto un po' le perché diciamo sì, la personalizzazione del personaggio si spinge a livelli che soltanto sì. Conan. Devo dire che è stata originale sta cosa, però il fatto che permette veramente di fare un miscuglio in vere conto, insomma. Può essere gender fluida nei livelli. Assolutamente, sì. Io lo vedo come una cosa positiva, sì, dai, sì, libertà a tutti di esprimersi come vogliono. Ci sono state lamentele anche su quello. Vabbè, parliamo. Tanto la gente si deve lamentare, sì, di tutto. Sì, poi oggi è il giorno d'oggi proprio, cioè. Però io ho fatto, allora, il mio personaggio è un uomo con la voce da donna e gli organi riproduttivi da donna, vestito da donna. Però c'ha la faccia da uomo, cioè è un po' è un po' una situazione, è difficile da spiegare, esatto. Dovreste vedere. È una chimera. E vabbè, allora questi sono i tre, insomma, personaggi che poi alla fine confluiscono, diciamo, in quello che poi sarà una timeline condivisa per tutti, con un po' come succede in tanti giochi di ruolo. Ricordiamo Dragon Age Origins, no? Che c'aveva la stessa cosa, no? C'erano le varie differenze a secondo se eri il nobile, nano, elfo, Zoff, Gentile, Gabrini, e praticamente poi ovviamente tutto riconfluiva in quello che poi è una timeline, una storia praticamente unica. Diciamo che a questo punto fossilizziamoci un attimo, partendo da Leonardo, sulle modalità di gioco, perché chiaramente questo gioco per la grande massa è stato, insomma, diciamo, presentato fondamentalmente come uno shooter in prima persona. E beh, sì dai, è un po' anche un pochino di Borderlands si porta dietro in sé, quindi c'è anche quel po' di looter shooter. Però sostanzialmente è un RPG sparatutto, dai via, è un po' un Fallout come tipologia, anzi più che Fallout io direi è un po' più vicino a The Outer Worlds, bravo, sì, perché Fallout è un po' come quello. Già il fatto che c'è lo SPAV, comunque c'è tutta una serie di meccaniche che... È più RPG, sì. È più RPG puro, e qua andiamo molto più sull'FPS, che secondo me è un pochino perde, magari anche voi altri, insomma, da player del cartaceo l'avete subita un po' sta mancanza, dovuta al fatto che è un FPS sostanzialmente, che non è un isometrico classico. Però secondo me è un pochino verde, per quanto poi guadagna da altri lati, perché ovviamente l'FPS ha tutta una serie di vantaggi, che sono quelli dell'immersione, certo. E della possibilità di vivere il mondo in prima persona, che secondo me è fantastico, specialmente se hai un mondo fatto in quel modo lì, come dicevamo prima, insomma, che ogni angolo ti regala qualcosa. Puccio? Ciao Puccio, ciao. Sono... Vabbè, Walter, intanto vai tu, poi Puccio si ritornerà prima o poi. Ma io devo dire che, come raccontato più volte anche prima dell'uscita del gioco, tu avresti preferito la terza persona, se non ricordo. L'avrei preferito in terza persona perché sono più affezionato a quel tipo di gioco e soprattutto perché mi oriento meglio rispetto a ciò che mi circonda, mi sento più a mio agio. Però devo dire che, per esempio, dopo aver giocato anche a The Witcher 3, che lo è, mi ero posto nella condizione di una potenziale frustrazione, perché non mi è mai piaciuto il modo in cui un personaggio in prima persona poi si muove, la fluidità dei movimenti, la rigidità di certi movimenti a me non ha mai convinto più di tanto. Mi sono sempre detto che se muovi il collo, se ti orienti eccetera, in realtà quando il tuo corpo si muove su più cardini contemporaneamente, quindi in realtà, per quanto siano migliorati i movimenti attuali di un personaggio in prima persona, sembrano sempre quelli di una scopa che sostanzialmente orienta un asse in particolare, quello del collo. Non mi sono trovato male poi alla fine, mi sono abituato abbastanza presto, anche perché per fortuna non è così spasmodico come altri giochi. Non è Doom, diciamo. Esatto, non è un FPS nel vero senso della parola, resta comunque un RPG. Sono sollevato del fatto che, anche se c'è una componente di crafting, non è così determinante e pallosa come quella di The Witcher, che io francamente ho sopportato fino a un certo punto, e per il resto niente, va bene così, insomma, mi sto divertendo, funziona. Ok, Buccio, invece come lo vedi il gameplay? Mi sentite ora? Sì, adesso ti sentite. Mi sentite? Ok. Allora, sparare credo sia la parte più noiosa del gioco in generale, ma questo dicono che la parte degli scontri fisici so peggio. Allora, io il personaggio che ho fatto io è a breve distanza, quindi sono pistola e katana e armi da taglio. Diciamo così, grossissimi problemi di gioco non ne ho avuti, non l'ho trovato particolarmente rigido. Poi ho preso un upgrade che è il filo monomolecolare, che si può usare invece dei pugni nudi. Anche in quel caso, diciamo, un certo dinamismo ce l'ho trovato. Diciamo, la parte in cui sei costretto a sparare non mi ha fatto proprio impazzire, però tutto sommato brutta proprio non è, anche perché poi le possibilità di evitare lo scontro a fuoco il gioco te le offre sempre. Poi è come ti sei buildato tranne nella prima missione, lì devi sparare per forza. Sì, ovviamente, vabbè, quello è il tutorial, devi anche capire se ti piace sparare o no. Vai, continua. Ci sono missioni in cui il tuo scopo è sgominare le Badlands, praticamente sterminare tutti quelli che sono nelle Badlands, lì li scontri a fuoco, li eviti fino a un certo bomba punto. Bomba a mano, cos'è? Bomba a mano. Vamo, ragazzi. Allora, gameplay e ruolismo, Leonardo. Torniamo a bomba sul crafting che aveva detto Walter prima. Che è una parte importante dei giochi di ruolo, di solito, insomma. Sì, che purtroppo secondo me è molto scarno stavolta. Ne parlavo con un amico giusto oggi e lui mi diceva: Madonna, era da tempo che non usavo l'autoclicker, che non usavo AutoKey, e purtroppo mi è toccato riusarlo, perché il crafting che devi tenere premuto e ripetere sempre la stessa cosa è proprio palloso. Non c'è niente di particolare. Da un lato capisco il punto di vista di Walter, perché giustamente, essendo un gioco ibrido, certo. Però se il gioco non ti costringe a doverlo fare, e in più tu comunque a chi lo vuole fare dai l'opportunità di avere un bel crafting, magari con un minigame carino, con, che ne so, le qualità degli oggetti, più materiali, insomma un po' più di varietà, sarebbe stato, immagino, un po' più piacevole. Però vabbè, è andata così, amen, l'importante è il gameplay. Guarda, diciamo, i minigame, scusa se ti interrompo, sarebbero stati anche interessanti nell'ottica di raccontare meglio la figura del Netrunner. È vero che nessuno dei personaggi che puoi giocare è un Netrunner, però in Cyberpunk era una sottocomponente separata che aveva tutta una sua dignità indipendente nel gioco da tavolo, del gioco di ruolo. Per cui è un peccato che non si sia esplorato. Poi chi lo sa, quindi un gioco di ruolo è inteso come crafter sostanzialmente, il Netrunner. Sarebbe una specie di... Nel gioco Blacksmith. Da tavola, dici? Nel gioco di ruolo? Sì. In realtà no, si tratta di fare una sorta di labirinti informatici che ovviamente nell'epoca della carta e della matita dovevano essere rappresentati in maniera molto fantasiosa. In Shadowrun era rappresentata bene questa cosa, invece. Secondo me Shadowrun è figo il modo, quando tu entri nei labirinti telematici virtuali, è figo quel pezzo, no? Non so se ci avete giocato. Sì, no, il limite nel gioco di ruolo da tavolo era che quando il narratore si doveva dedicare al Netrunner passava anche 20, 25, 30 minuti a giocare solo con lui perché era inevitabile, e altri giocatori si giravano i pollici. Era quello il problema pratico. O i coglioni anche, cioè, un po' anche. Tornando a bomba sul gameplay, vai. Comunque il gameplay sostanzialmente gameplay e fatto. Ruolismo, che è la cosa che mi interessa da te in particolare, e là poi ci arriviamo, perché quella è la parte, la nota dolente secondo me, perché il gameplay scorre bene, è un buon gioco Cyberpunk, come dice Penguinso, poi uno youtuber che seguo, che dice: regà, dovete capire che è un videogioco, ma accontentiamoci, cioè l'hype sarà pure a mille, ma sostanzialmente sarà un buon videogioco, non sarà il nuovo Vangelo riscritto e rivisto che ci cambierà la vita, e quello è un ottimo videogioco, un ottimo AAA secondo me, però dal punto di vista eroismo lì c'è sempre quei limiti che ti dà il videogioco, purtroppo, e Cyberpunk ne soffre un po' di più secondo me, perché alla fine le scelte che hai in quello che puoi fare sono abbastanza risicate spesso e volentieri, tralasciando magari che hai quell'opzioncina in più perché sei corporativo o nomade o street kid, alla fine le scelte sono 2, 3, 4, to, però puoi scegliere molto poco su come ruolartela. Cioè, tu dici comunque nelle varie sfumature dei giochi di ruolo non è Pillars of Eternity, insomma, cioè chiaramente perché... Ma neanche, ma anche per rimanere in tema sempre con la stessa tipologia dell'FPS RPG, no, proprio l'FPS RPG non è un Fallout, New Vegas, sì, che magari aveva un muro di scelte, ce ne avevi, ne so, 6, vabbè, 7, però 8, quella è Obsidian, 10. Cioè Obsidian, esatto, e magari anche legate alle skill che hai. Questa è una cosa che loro ho notato che hanno fatto molto poco, sui giochi Bethesda, magari su 20 abilità che hai, le risposte che hai, magari ne hai 4-5 legate alle abilità, e alcune delle quali, alcune magari in più bloccate, qui magari ne hai 2, che ne so, 2 in più, ma a dire tanto, che sono spesso legate al hacking e al netrunning, comunque sì, la parte, beh, del no, aspetta, cioè ci sono, non so perché ancora le altre vie non le ho provate, però ci sono alcune risposte che sono legate alle origini del tuo personaggio, mm-hmm, cioè tipo alcune risposte che hai ce l'hai marcata vita da sì, ma non sono particolarmente determinanti nell'economia, sì, della storia. E poi è una e non so bene, prendi insomma esperienza se le usi, a dirla brutalmente. No, non so, perché per esempio, non so, magari, ripeto, perché non abbiamo ancora provato ognuno le origini dell'altro, però per esempio oggi, se non avessi avuto una risposta vita da strada durante una sub quest con un poliziotto, una determinata cosa non mi si sarebbe sbloccata, perché poi ho ripreso un salvataggio, ho evitato quella risposta, diciamo, una cosa non mi si è sbloccata. Però, no, ma probabilmente aspetta, però sì, aspetta, però secondo me siamo comunque molto su un binario ancora. Allora, Leonardo dice, non dice che non esiste questa cosa, dice che rispetto a Fallout, dove tu su 6 linee di dialogo c'hai 4 linee di dialogo che sono legate alle tue perk magari, o comunque le tue caratteristiche, qui questo sì, tipo, esatto, tipo eloquenza, queste cose qui, se invece su Cyberpunk magari questa cosa è molto più limitata, è molto più occasionale, diciamo così, non che non ci sia o che non abbia un suo impatto, no? Credo questo, no? Dicevi, Leonardo. Sì, sì, sì. Certo, sì, sì, no, ma io poi questo secondo me si lega anche un pochino al fatto che la CD Projekt Red va sempre verso un po', è fatto questa discesa verso il gioco per console, che un pochino cercano sempre di semplificarlo, secondo me questo è la faccenda sostanziale, sì. Però sì, mancano un po' le rispostine, però il gioco comunque è scorrevole, il gameplay è bello, c'ha il suo flow, ecco. Dai, diciamo che portare il gioco di ruolo a AAA, Puccio, inevitabilmente sì, ti porta a dover raggiungere un pubblico più ampio, esatto, le implicazioni sono il compromesso, dai, esatto. Anche no, vabbè, gli ultimi Fallout, diciamo quelli dal passaggio al 3D pieno in poi, lasciamo perdere Fallout 4, ragazzi, che a me quella cosa della gestione, tutta la parte gestionale, che era proprio, che si vedeva che ammiccava all'online, è una cosa che io non ho mai potuto, cioè proprio per me è stato un abominio, cioè nel senso ma la gestione dell'avamposto, dici? Dell'avamposto, io, cioè nel senso, quando ho visto che ci stavano i mod che facevano tutto automatico, vai, cioè non ne voglio proprio sapere io, cioè. Io voglio andare personaggi che ti rubano le armature. Io voglio andare in giro a ammazzare i supermutanti, insomma, non non mi rompete i coglioni con sta cosa che alla fine poi dopo ci sono le missioni ripetitive, no? Quelle a ciclo continuo, ad andare a liberare qui, che è veramente, era proprio il meccanismo, era il prototipo per una delle peggiori cose che la storia abbia, che ricorderà, che è Fallout 76, che chiaramente, cioè, nel senso, per me, io non ci ho manco voluto mettere le mani sopra, perché eppure ricordate che Fallout è il gioco al quale io ho giocato di più in assoluto, cioè. Ho sentito un sospiro di qualcuno, chi era? Era Leo. Ero io? No, penso no. Nessuno. Era Puccio, Puccio, eri tu che sospiravi. No, che cosa? Allora, Walter, va, qualcuno ha sospirato? No. Okay. Secondo me sarebbe stato necessario per 76, sarebbe stato necessario il sospiro, però giuro che non l'ho fatto. Okay. Forse l'hai pensato e io l'ho sentito. Se lo meritava il 76, esatto. Magari mai sentito mentre l'ho lo sentito, pensavo. Esatto. Ma lui l'ha provato, perché io tipo ci ho fatto 3 ore durante una... Brevemente sì. Non è un disastro come lo hanno descritto. Al di là dei bug, in tanti, può essere anche piacevole, però insomma è sempre un, poi uno si fa anche i conti in tasca quando cresce, non vale quello che costa semplicemente per quello che offre, secondo ma me. Ma dici proprio economicamente o come impegno che richiede? No, economicamente, per quello che ti dà non vale, quei ai tempi costava mi pare 50-60 al lancio, era a prezzo pieno mi pare, sì. Io l'ho presi tempo dopo che l'avevano stracciato lì, vabbè, ok, ma più di quello non ne vale. Beh, allora dai ragazzi, io vorrei che adesso voi approfondisse le vostre opinioni proprio più viscerali su questo gioco, sia in termini analitici riguardo appunto al gameplay o magari a quello che è appunto la parte ruolistica, sia in senso generale come prodotto proprio, anche dal punto di vista qualitativo e artistico, insomma, se vogliamo. Quindi avete proprio spazio libero per quanto tempo volete, ovviamente sempre nei limiti della licenza. Partiamo da Leo, Walter e poi Puccio. Allora, qualità del gioco, vabbè, l'avevamo detto prima in realtà in parte, che diciamo la qualità c'è un bel flow, i bug la maggior parte fanno ride, perché poi alla fine di quello si parla sti giorni, è sulla bocca di tutti, sulla bocca di tutti è il fatto che il gioco sia buggato, i giochi al lancio sono sempre tutti rotti, non, è raro che siano perfetti, specialmente quelli di oggi, che comunque richiedono un'attenzione da parte di centinaia di persone su centinaia di punti diversi, ovviamente qualcosa che non è perfetto ci sarà sempre. E a me, per esempio, come diceva Walter prima, che aveva avuto quel bug particolare, non mi è capitato niente di game breaking, se non un singolo bug che praticamente ha fatto credere al mio personaggio che io fossi in zona sicura fisso e quindi non potevo più estrarre le armi, ho dovuto ricaricare un salvataggio vecchio e ho risolto. Il resto dei bug sono stati tutti divertenti, tutta roba da... Ma guarda, io sempre con Jackie ho avuto 2 episodi simili a quello che ho raccontato. Il primo me la sono cavata con poco, perché è avvenuto praticamente subito dopo un salvataggio automatico quando ero entrato in una stanza dalla quale appunto non potevo più uscire. In un secondo caso ho perso 20 minuti di gioco perché si è impiantato su una passerella davanti a me, non si voleva togliere, io dovevo praticamente sgominare una fabbrica. E niente, da lì ho dovuto rifare tutto quel quadro perché ho dovuto prendere il salvataggio precedente. Si è piantato lì, non si è mosso, non mi faceva passare, non uccideva nessuno malgrado i suoi colpi infiniti, e così. No, non so se fortunato, allora. Non so se vi ricordate, ma su Fallout 3 sta cosa succedeva spesso. Però Fallout 3 c'aveva una prerogativa, che anche se c'avevi il compagno super mutante e si incastrava davanti alla porta, tu iniziavi a spingere, no? Fino a che non lo leva, piano piano lo spostavi. Gli spazi aperti che aiutavano tanto, perché chiaramente c'era meno clutter rispetto a oggi. Eh sì, però quando stavi dentro i posti pieni di roba, quando stavi dentro i posti e si fermava davanti alla porta, erano bestemmie, allora dovevi spingere fino a che non se levava e poi alla fine riuscivi a levarlo. Ma noi siamo cresciuti con la prerogativa che questa era la normalità praticamente, esatto. Perché nei giochi dei primi 2000 gli alleati si incastravano ovunque, ti bloccavano il pathing ogni volta, sì, cioè, sì, poi la base minima. Poi su Fallout c'erano proprio i desaparecidos. Siamo noi che non lo prendiamo il problema. Siamo noi che non lo viviamo come un problema. Esatto. Sì, no, per noi è una feature sta cosa. Esatto. Io c'avevo compagni che sparivano senza motivo, cioè nel senso che vai, poi andavo a ricercarli, non li trovi più, a volte... Nella run che ho rifatto 2 o 3 mesi fa di Fallout 3 ho imparato che c'era la console, se no io manco lo sapevo, e allora ogni tanto me lo andavo a richiamare, ma c'è cioè a un certo punto c'erano compagni che sparivano. Ma io mi ricordo la prima volta che ho giocato a Fallout 3, c'era Moriarty, quello del bar, che era importante per la quest, che lui mi diceva che stava lì, ma non c'era. Poi dopo, leggendo in giro, dice capace che stava a 3 metri sottoterra, capito? Quindi non lo potevi recuperare, non ci potevi parlare, non potevi andare avanti col gioco. Cioè c'erano delle cose meravigliose. Poi Fallout 3, se Fallout 3 metri sottoterra è anche poco. Tra l'altro, vabbè, ma la cosa bella è che se tu salvavi e basta, quel gioco era così, basta. Non c'erano cazzi su quello. Te lo tenevi rotto, sì, esatto, è successo, cioè, con Skyrim e Cesargo, che morì inavvertitamente, poi me ne accorsi ore dopo. Esatto. Salvataggi dopo, ormai e dopo d'attacchi, attacchi, sì, sì. Purtroppo era morto per sempre. Ho provato a ressarlo con la console, però era arrabbiato con me, non è mai più voluto tornare a servirmi, è stato un brutto colpo. Comunque, tornando alla qualità del gioco, parliamo di una cosa veramente fastidiosa, secondo me, del gioco. Le parti buone ne abbiamo parlato. Secondo me il level design è fighissimo, potranno migliorarlo e farlo arrivare ai livelli di quello di GTA senza problemi. L'intelligenza artificiale è una delle cose, secondo me, gravi, specialmente quella della polizia, e la stupidità artificiale. Esatto, sì, si sono impegnati a fare la stupidità artificiale, perché la polizia si dimentica di te dopo 100 metri, inspiegabilmente, e poi i nemici sono stupidissimi, quello non ne parliamo, ai livelli di quelli di Skyrim, insomma, il classico must have been the wind, no? Dopo che uccidi un alleato accanto a lui. E in più anche le persone random sono stupidissime, cioè tu spari un colpo, loro rimangono accucciati per strada per all'infinito, cioè per sempre. Non cercano di salvarsi la vita né niente, si accucciano e basta. E poi vabbè, la guida è ignobile. No, la guida è terribile. Anche i giochi di guida, sono semi appassionato, specialmente del periodo degli anni 90, JDM, ma auto giapponesi, quindi un pochino seguo i giochi di guida, non tantissimo, però insomma, che ne so, i miei Need for Speed, le cose un po' più arcade me le faccio, e la guida di Cyberpunk è ignobile, sembra di guidare su una lastra di ghiaccio, sempre indipendentemente da dove stai, sì. Esatto. Sculano tantissimo con un triciclo su una lastra di ghiaccio, è ignobile. Quello ti dimostra quanto il gioco sia fatto per joypad, comunque, secondo me. Sapete che sensazione ho da questi cali di attenzione, questi cali di qualità rispetto alla media del gioco stesso? Che alcuni elementi siano stati realizzati comprando dei pacchetti di asset presi e messi lì. So che loro utilizzano un engine proprietario, quindi questa tesi va un po' a morire. Ah, vedo dura, però dura, quasi... Sì, però lo so. O magari studi quasi... esterni anche. No, perché se notate, le moto rispetto alle macchine hanno meno problemi di guida. Hai mai provato a prendere un muro, però andando un po' in diagonale, a 200 in moto? No, oggi ho fatto un frontale e mi è volato il personaggio. Il frontale ti fa volare il personaggio, ma basta che tu stai a 30 gradi, decolli, però tu non ti stacchi mai dalla moto, non succede niente, poi riatterri. Però è tutto a posto, è stranissimo. Mentre no, vabbè, ma quella si vede che è una meccanica proprio non finita, non implementata correttamente. Cioè, comunque, ragazzi, l'epicità si raggiunge quando tu sei dentro un veicolo da passeggero. Lì può succedere veramente di tutto. A cominciare dal personaggio in cui io, i primi giorni, quindi primissime versioni, mi sono trovato a trovarmi disegnato all'interno del personaggio che stava guidando, mentre io dovevo essere semplicemente un passeggero, e vedevo i bulbi oculari del personaggio, tutto il resto non c'era perché c'ero io dentro. Vabbè, però se il personaggio era Param, che tu cercassi di infilarti dentro di lei, è normale. Ma infatti ho detto, ragazzi, mi sono fatto Panam, però insomma in maniera un po' troppo drastica. Non era partecipativa, ma lei magari stava in T-pose. C'è stata un po' legnosa. Macchina la T-pose la fanno a volte. No, dopo la penultima. Ah, quell'hotfix che hanno fatto. Ok, peccato, perché non era niente male il T-pose con le braccia e la testa che sbucava dal tetto. quelli all'inizio c'erano, vabbè, ma insomma. Vai, Buccio. Bellissima anche la. Vai. No, io in realtà dal punto di vista tecnico io mi accodo, cioè l'unica forse il primo gioco di ruolo ambientato in una città che gioco dove la città mi sembra viva. Io una sensazione simile ce l'ho avuto con qualche ultima, scusate il gioco di parole, gli ultimi ultima, beh, pure, pure Mafia, dai, pure Mafia un pochetto. No, non ci ho mai giocato a Mafia. Cioè, ma diciamo, questo mo cacciate, per cortesia, basta, è finita la trasmissione, arrivederci, andiamo a casa. La roba con la criminalità, dicevo, ma mosh. Invece Cyberpunk sono tutte brave persone, capito? Beh sì, allora diciamo, io la sensazione di ambiente vivo ce l'ho avuto con Shenmue e con qualcosa, e con gli ultima in un altro senso. Invece in realtà c'ho una cosa che mi sta dando fastidio progredendo nel gioco, è che in realtà mi sembra che Silverhand abbia uno sviluppo migliore di quello del tuo personaggio, come trama, come battute, proprio come crescita del personaggio. Cioè mi sembra che sia stato scritto meglio e con più attenzione rispetto al protagonista. Allora, lì corre mito, lì corre mito, ragazzi, aspetta, però corre mito del fatto che originariamente il ruolo di Johnny Silverhand nel gioco dovesse essere molto più marginale. Sembrerebbe che Keanu Reeves si è talmente innamorato di questo personaggio che fondamentalmente abbia chiesto a CD Projekt di aumentare lo spessore e il ruolo del personaggio nella storia. Quindi se è vero, è stato scritto successivamente, quindi magari anche da, non è da escludere, anche da una penna diversa. Però sai che cos'è? Che in realtà il personaggio di Silverhand è forse gli è piaciuto perché è molto diverso dall'idea che la gente ha di Keanu Reeves. Cioè ha interpretato finalmente lo stronzo, perché alla fine è un narcisista rompicoglioni simpatico, per carità, però è quello lì. Però diciamo sarà stato anche quello sicuramente, però sai, alla fine vi cresce meno di Johnny come personaggio. Ma non so, devo ancora affrontare il finale, può cambiare ancora tutto. Io non so quanti però di voi sta sensazione così. Non so, però, quanti di voi ha suonato la chitarra e cantato. Vabbè, quello cioè, i pezzi dei samurai sono suonati, la chitarra è sua e la voce è sua, e devo dire si difende bene. Vabbè che no, comunque ragazzi, aspettate un attimo, scusa Walter, non solo un secondo e poi faccio sta cosa che poi riprendi tu. E so se vi ricordate un po' sta questione, mi ricorda il Borderlands The Telltale, il tizio dentro la mente di lui, narcisista, pezzo di merda, non so se ve lo ricordate. Tales of Borderlands, bravo, Jack, esatto, cioè sta cosa il ricordo di Jackie il Bello, come no, cioè ragazzi, sta cosa la prende una cifra, insomma. Poi è vero che non era originalissimo neanche quello, però diciamo che insomma ma riporta... un bello spunto per ruolare, secondo me, sta cosa, perché ti metti il dubbio, dici io sono veramente V o magari voglio essere Johnny. Ecco. Beh, considerando che le due cose potrebbero andare molto a convergere e non diciamo altro. E beh, allora tu stai a fa spoiler. No, non ho detto altro. No. Beh, oddio, però ci sono i momenti in cui è Johnny che c'ha il controllo, sono Rizzard in chat dice: vabbè, mo è colpa di Keanu Reeves che ha fatto rimettere mani al codice e ha sputtato tutto. No. Grazie, ci ha messo parecchio del suo lui, c'è da dire. C'è anche una delle sue moto nel gioco. Perché Keanu Reeves adesso è dipinto in tutto il mondo dello Star System come quella persona così buona che va a finire che chiede anche scusa. Non me lo. Povero Keanu, non trattiamolo così male che poi si sente in colpa. Comunque, ragazzi, senza fare spoiler, però ho fatto una missione secondaria in cui hanno ricostruito la scena: sei mozzafiato? No, tu sei mozzafiato. Non vi dico qual è, però c'è. Questa mi manca, io non l'ho fatta, però andrò in cerca di sta cosa, perché bisognerà andare a fare voi magari in privato datevi le coordinate di sta cosa, così almeno qualcosa di Matrix per esempio non l'ho ancora beccato. Io invece ho beccato su Borderlands, c'è la scena di Matrix, quella epica di quando entrano, che c'è il palazzo, no, che si sparano tra le colonne. Vabbè, io purtroppo oggi ho fatto la gran cazzata di guardarmi un video su YouTube che ero curioso e me lo sono andato a guardare, di tutti gli easter egg all'interno del gioco, e vabbè, c'è di tutto dentro. E ragazzi, sì, è pieno zeppo. E ragazzi, c'è anche Roy Betty seduto sul cima del palazzo, cioè, quindi cioè, alla fine quello mi manca. Mamma mia, è notevole. Questa è una cosa fatta proprio, cioè, che lì per lì tu dici no, cerchi di che poi dopo quando il personaggio si avvicina e ti fa vedere, cioè proprio lui seduto nello stesso modo in cui finisce il film The Blade Runner, cioè devo dire, poi alla fine, ecco, insomma, questo forse non lo devo dire, però c'ho avuto questa curiosità e ce ne stanno a decine de citazioni cinematografiche e anche videoludiche, quindi... C'è un, però una roba che... Va, smarchiamo pure questo argomento. Chi di voi c'ha Twitter e segue William Gibson come account? Quello che ha inventato il cyberpunk, perché io però non ricordo a cosa ti stai riferendo. No, ci sono stati due momenti in cui ha fatto due osservazioni interessanti. La prima è che quello che non aveva apprezzato del gioco è che avevano cercato di distanziarsi dai romanzi, però involontariamente avevano ripreso degli elementi che potevano essere differenti, tipo i Voodoo Boys sono molto simili a dei personaggi che sono descritti nella trilogia dello Sprawl. Però CD Projekt Red più volte ha detto: guardate che questo gioco viene dal gioco cartaceo, non viene dai romanzi di Gibson. Però alcuni elementi presenti nei romanzi poi CD Projekt Red li ha semplicemente riportati di sana pianta, e non suonano tanto come omaggi e citazioni quanto sul fatto di oh, era bello, lo riutilizziamo. E in più il fatto che letteralmente, per strano che sembri, non c'è un cacchio di riferimento ai personaggi dei romanzi cyberpunk più famosi. C'è una persona che sostiene che in un caffè si incontrino due personaggi che somiglino a Case e Molly, i protagonisti di Neuromante. Sono andato a vedere, ma ci devi aver messo molta fantasia per averci visto Case e Molly in quei due. Bah, capace pure, non so, no, comunque ne ho viste tante, devo dire ce ne sono tante. Comunque Walter, invece la tua opinione in generale, poi dopo magari se qualcuno vuole puntualizzare e focalizzarsi magari su un aspetto particolare, così insomma avete campo libero, in questo momento ci avete campo libero, poi andiamo alle conclusioni. Vai Walter. Ma guarda, il mio giudizio generale parte anche da un piccolo, da una piccola nota, una piccola mozione di nota, nel senso, è stato fatto un ottimo lavoro di doppiaggio in Italia del gioco, che non era scontato, ed è una cosa molto, molto importante secondo me da dire, perché al di là del fatto che sia stato chiamato lo stesso Luca Ward, che è il doppiatore storico di Keanu Reeves, per interpretare la voce di Johnny Silverhand, anche il resto del cast di doppiatori è sicuramente di alto livello, e sono andati oltre, malgrado milioni di righe di testo da doppiare, sono andati probabilmente oltre il semplice leggere delle frasi sterili senza neanche avere un contesto, perché si sente un'interpretazione, non c'è quella lettura piatta tipica di molti videogiochi in cui i doppiatori leggono delle linee ma non sanno in che contesto e con quali emozioni le devono interpretare. Devo dire che tutto questo in Cyberpunk è stato curato, quindi complimenti, anche perché immagino che anche quello sia stato un lavoro che si sarà protratto fino alle ultime settimane prima del lancio, insomma sarà stato impegnativo. In generale il gioco è divertente, è fatto bene ma non benissimo, ha dei cali vistosi dell'attenzione da parte di chi ha pensato l'insieme, perché se da una parte abbiamo una città bellissima con tanti bei giochi di luce anche senza ray tracing, d'altra parte molte delle luci di Night City sono notturne, sono al neon, quindi il ray tracing che dà il suo meglio al sole non diventa poi fondamentale. Molto molto bello il fatto che sia stata seguita con una certa fedeltà l'originalità dell'opera, quindi di Cyberpunk, quantomeno il gioco di ruolo, poi rispetto al concetto di mondo cyberpunk visto da William Gibson sicuramente c'è qualche differenza, qualche licenza, qualche adattamento, anche perché si è dovuto portare il cyberpunk anche ad un livello diverso, visto e considerato che molte delle narrazioni originali poi sono state superate dagli eventi, quindi c'è stato anche un certo adattamento, nonché spostarci al 2077 dal 2020 che era stato pensato in origine, quindi insomma le cose sono necessariamente state adattate per non risultare anacronistiche prima del tempo. Alcuni difetti sono troppo gravi per essere perdonati, soprattutto per un gioco che quando esce costa 60-70 euro, quindi su certe cose mi viene da dire vorrei essere inflessibile e bocciarle totalmente, però nel complesso non posso dire di non starmi divertendo, e quindi l'importante alla fine, il successo di un gioco credo che debba dipendere da quello. Se tante persone quando lo giocano riescono comunque a divertirsi, il suo l'ha fatto. Poi ci aspettiamo patch che migliorino tutta una serie di situazioni incresciose e fastidiose di media gravità. Alcune sono ormai diventati meme che resteranno negli anni, quando anche il gioco stesso non sarà più particolarmente in auge. I meme dedicati a questi glitch rimarranno, però insomma questo fa tutto parte del contesto di un gioco che è e rimane AAA. Mi dispiace di venire a sapere di quelli che hanno provato a fare i furbi e a restituirlo dopo averlo finito, però insomma il mondo no, è fatto anche di queste persone. Vabbè. Qua vabbè, io personalmente sì, ripeto, mi sto divertendo e va bene così. Che poi vuoi dire, non so quante ore ci possono mettere uno, comunque, anche se vai dritto solo per la main quest, no? Che poi tra l'altro, cioè, le quest successive servono pure per livellare, no? Io non so, perché io ho detto, io ho fatto tutta l'intro, ma poi non ci ho giocato. Devo dire. Di questi giochi ho provato a fare la main quest troppo presto, ho preso un sacco di schiaffi, quindi ho dovuto comunque ripiegare e livellare. Esatto. E Puccio, invece tu su cosa vuoi porre l'attenzione in particolare? Una cosa che veramente ti lascerà, perlomeno allo stato attuale, comunque legato a sto gioco, che te lo farà ricordare in positivo, e magari una cosa che proprio no, cioè al di là delle questioni più classiche, ma immagino che Puccio in questo momento stia parlando e noi non lo sentiamo. Immagino, vabbè. Allora partiamo da Leon, tanto che Puccio si sistema. Ne avevamo parlato un pochino nella puntata 1, quando ci eravamo visti la prima volta. Io lo tengo su un piedistallo Keanu Reeves, quindi se c'è una cosa che mi farà ricordare alla grande questo gioco è che ci sarà il mio attore preferito che interpreta uno dei personaggi. Che sembra quasi una cazzata, però poi uno comunque quando si affeziona tanto a un attore che ti accompagna insomma negli anni, nella tua crescita, fa insomma, certo, ci mancherebbe, certo. E quindi sicuramente quello. Poi vabbè, i meme, come diceva giustamente Walter, io non so se l'avete visto, ce n'è uno stupendo della macchina che fa praticamente la flying shoulder block di John Cena e sbatte per terra la persona. È bellissima, la macchina tocca appena appena il passante, si alza la macchina in penna e sbatte per terra il passante girandosi come un cucchiaio. E tutta questa serie di meme, tutte queste cavolate qua, ovviamente saranno cose delle quali rideremo anche a distanza di 20 anni, e che faranno poi installare il gioco a parecchie persone e diranno vabbè, fammi andare a vivere sti meme magari anche quando il gioco pensa sarà... che rosicata quando non ci saranno, non più saranno alla versione, esatto, 1.779, non tutto ci saranno risolte, dice no vabbè non la posso fare. Mi permetto di dire che questo argomento sarà il tema non della prossima puntata, della prossima settimana, ma quello della settimana successiva, dove faremo una puntata che si chiama Damnatio Memorie, che è secondo me uno dei grossi problemi dell'era del digitale, e quindi insomma già vi invito a considerare il fatto che parleremo di questo, perché ovviamente oltre al fatto di opere che possono completamente sparire dalla faccia della terra, parleremo anche di quanto nel mondo del software le versioni, gli aggiornamenti e i miglioramenti, diciamo, vengono completamente cancellati dalla cronologia storiografica di un prodotto, e quindi non permettendo poi successivamente di fare una ricostruzione storica anche del gioco stesso, così come oggi facciamo con i vecchi videogiochi, insomma, per quello che riguarda ovviamente la storia del videogame. Quindi diciamo che questa è una puntata che sarà abbastanza interessante, parleremo anche di un po' come è successo oggi a Puccio. So che Casciarelli si sta interessando. Ah, eccolo, c'è. Tornato, ci sono. È tornato. No, scusate, era la batteria della cuffia, credo di aver risolto. Ah, ok, infatti adesso mi sembri più squillante. Hai visto? Fine puntata si sente bene quasi. Guarda, no, io sento sempre ogni tanto un po' di riverbero, però. Quella è colpa mia. Io credo che la cosa che mi ha fatto veramente, mi si è attaccata al sistema nervoso, è una stupidata. Però il problema è che quando parcheggi si blocca il traffico. Avete notato? Sono gentili, mica su tutti Roma. No, suonano. Però Puccio, perché te te metti in doppia fila, te sei fatto riconoscere, di la verità. Io sono originario di Bari. Esatto. Anche lasciare la macchina lì più che altro, è quella la cosa. Quattro frecce. Lasci l'auto lì 4 ore e il tipo rimane dietro tranquillo. Vabbè, questo però pure in GTA succedeva, dai, su. Sì, no, vabbè, non possiamo pretendere che costruiscano un'intelligenza. Beh, no, su GTA cercano di aggirarti, ma poi questi, sai che c'è, secondo me sono discorsi che li stanno facendo con giochi che sono in uno stato avanzato dello sviluppo, anche a livello di patch post lancio, tipo GTA, e stanno uscendo dei video, ce ne stanno una marea che fanno, che ne so, Cyberpunk contro questo gioco che può essere GTA di turno o qualsiasi altra cosa, che magari, che ne so, i vari Watch Dogs, eccetera eccetera. Naturalmente i giochi che sono già usciti hanno, insomma, magari 10, 20, 30 patch sulle spalle, risultano migliori da questo punto di vista, perché sono stati addrizzati col tempo, perché magari hanno rotti altrettanto al lancio, e oggi risultano meglio. Poi ovvio fanno fa brutta figura Cyberpunk e la gente nei commenti si scatena, però bisogna pure calcolare che Cyberpunk non c'ha neanche un mese. E beh, ha avuto però 3 patch importanti in un mese, per di più. Ah beh, però penso che un'intelligenza artificiale fatta bene bene per chi sta in macchina, per i pedoni, anche ce ne vorrà. Sì, ma considerate che noi parliamo di GTA, ma GTA noi lo vediamo oggi, ma mica ce lo ricordiamo bene quando è uscito, insomma, come, cioè, anche lì, no? Ci sarà stata la sua evoluzione. C'è Rizzard che chiede che alla fine puntata se dite le configurazioni dei vostri computer masterpiece. Vabbè, a parte Walter, che lui gioca con Stadia, quindi lui è, come no, è andato oltre, insomma, cioè nel senso, è inutile che compro il computer. Lui è davvero cyber. Esatto. Per io ho detto, perché mi devo ricomprare il computer? C'è Stadia, giustamente, ha fatto bene, insomma. Ma detto culo. No, no, vabbè, sapevi che c'avevi la linea e hai fatto bene, insomma. No, ma il rischio, poi l'avevamo detto in altri show, il rischio era che comprassi la versione PS4 liscia e sarebbe bestemmia. No, ma lì quello ci ha pensato Marble Madness e ci ha avvisato subito in chat. Ha avvisato per te. Ma in realtà No, ma aspetta, quando Marble Madness ha comprato la versione PS4, avevo fatto il pre-order per Stadia già da 2 settimane. Sì, sì, vabbè, ma veramente il problema in effetti è che fino al giorno prima, quindi del pre-day one, in effetti, ecco, forse è su questo che non ci siamo soffermati, sul fatto che fino a che non è arrivata, perché neanche alle redazioni era arrivata la versione PS4, perché loro su questo sono stati disonesti, veramente disonesti. Questo secondo me è un atteggiamento disonesto, perché al di là del fatto che tu sai che il gioco non funziona e non è pronto, tu lo metti comunque sul mercato, non permetti a nessuno di visionarlo prima dell'uscita sul mercato, e quindi la gente, fortuna che poi c'era possibilità di rimborsare, magari in quelle situazioni dove magari qualcuno non l'ha potuto restituire il gioco, insomma, sei un pezzo di merda, diciamo, come dicono a Parigi, insomma. Non so se siete d'accordo su sta cosa, partendo da chi vuole di voi iniziare. Niente, non il fatto che non l'abbiano consegnato il fatto che non l'abbiano consegnato per PS4 è una vigliaccata, anche perché hai dato il tempo alle redazioni di far uscire i voti per le versioni PC, che erano oggettivamente altissime, di far maturare in chi leggeva l'idea che le versioni console sarebbero state allo stesso livello circa. E comunque Arturino Mazzei l'ha appoggiata subito con gentilezza, e quando Google chiude Stadia e sappiamo del culo, cioè che voi che... Sì, la risposta più comoda è quella, gli stavo in realtà proprio rispondendo in chat, che gli posso fare io, cioè, da domani. Proprio così aggiungerei. Esatto, ma c'è proprio c'è un'opzione, eh? Cioè, tu puoi disdire l'abbonamento, perché siccome che chiude non me la voglio prendere. C'è l'opzione sorarella, ti fanno un buono. Esatto, bravo. E Leo, invece, tu che pensi di questa questione dell'uscita della PlayStation 4? Che ci siamo dimenticati di affrontare questa questione. Ma tu parli però chiaramente a livello del fatto che sia stata così catastrofica per PS4. In realtà un po' l'avevamo toccato prima. Fatto che loro non hanno fatto. Cioè, io il gioco mi sono reso conto. Lui, infatti, Walter prima ha detto: io il gioco l'avevo preordinato da un pezzo su PC, mm-hmm, per giocarlo su Stadia, ma se avessi scelto la versione PlayStation 4, no? Perché chiaramente noi fino al giorno prima del day one quando c'era un tizio che su Twitch si era messo a giocare alla versione PlayStation 4 e noi vedevamo che andava a 20 frame al secondo con nessuno per strada, ci siamo detti: ma per questo c'è il computer che non gli funziona. Gliel'abbiamo scritto in chat, lui ha detto: no, non è la versione PC, la versione PS4, ma credo sia limitata perché è prima del giorno di esecuzione. Così lui si è inventato sta ipotesi perché non voleva sperare, cioè non poteva ipotizzare che quel gioco credere che fosse la verità. Esatto, non voleva credere che fosse così il gioco, no? E quindi si è dato sta spiegazione fantasiosa, ma tutto sommato anche plausibile, no? Nel senso, ci può stare, no? Questo, no? Di questo che non abbiamo parlato, il fatto che questi comunque il gioco non l'hanno fatto vedere a nessuno su versioni console vecchia generazione. Questa è... Ho visto che hanno fatto poi un post di scuse dopo, sì, riguardo al fatto che è stata, comunque a questo punto mi seguo anche Puccio sul fatto della canagliata, tra virgolette anche un po' magari una furbata, e potrebbe darsi che lo sapevano, senza potrebbe darsi, parliamoci chiaro, lo sapevano benissimo. Lo sapevano benissimo, perché io non penso che certo il gioco prima del lancio loro non l'avessero fatto girare su PS e avessero detto: ragazzi, questo gioco gira un tombino, non si può lanciare così. E allora hanno detto: no, vai tranquillo, non passa nada, lo facciamo poi. Cioè, ma tu te rendi conto che questi l'hanno mandato in stampa sto gioco? Cioè, io, no, però ragazzi, appunto, però c'è un'altra cosa che è il convitato di pietra di questa discussione: è il controllo qualità di Sony che ha fatto. Bravo. Ma lì se ne sono fatte, se ne sono lavati le mani, secondo me. Alla fine sapevano che questo gioco avrebbe portato tanti di quei soldi nelle reciproche casse che fondamentalmente ma gli hanno ritirato tutti indietro per il gioco. Cioè, sicuramente qualcuno sì, non un numero trascurabile. Sarà sì una percentuale comunque che rispetto. Hanno venduto 13 milioni di copie in neanche un mese. Hanno parlato di percentuale omeopatica, quindi fatevi un'idea. Cioè, sarà tipo lo 0,5%. Sì, no, assolutamente. Vabbè, poi ci informiamo su questa cosa, magari ci torniamo. Poi Sony comunque è grossa, quindi si è fatta i suoi conti e se li sa fare, insomma, i conti in tasca quello ormai da una vita, quindi avranno calcolato anche. Sì, ma la perdita di prestigio di tutti quanti non la mette in conto nessuno. Cioè Sony dopo No Man's Sky, questa è un'altra bella pezza, ragazzi. Che poi sì, è vero che oggi si dimentica tutto perché è tutto veloce, tutto de corsa, però poi veramente quanto la gente dimentica tutte queste storie, non lo so, cioè, io... Però per come è stato montato questo caso a Sony, Sony cade in piedi, anche per poi se ci pensi rispetto a Microsoft che non ha neanche avviato una politica di risarcimenti, Sony grosso modo può provato, dire il gioco non l'ho sviluppato io. Alla fine i soldi, se proprio me li richiedi, te li ridò, quindi tutto sommato è caduta in piedi. Sì, no, può essere anche. Io comunque continuo a fare, ragazzi, io lo so che a noi ci ascoltano in pochi, insomma, rispetto a quanto magari potrebbero ascoltare. Però io... Scusami, Arturino fa notare come alla Gamescom Awards credo che ci sia proprio per miglior gioco Sony PlayStation Cyberpunk 2077, quindi fondamentalmente sono stupidi. È stato un successo a prescindere, quindi ci scappa un annamo bene. Come diceva il principe Tancredi di Salina, esatto. Bene o male, no, beh, parli, questa cosa. Io comunque, ragazzi, continuo il mio invito che da anni, a meno che non c'è un motivo che voi siete consapevoli di quello che state facendo quando fate i preordini, o quando addirittura neanche gli eccessi, ma quando finanziate dei progetti che non sapete se arriveranno in termine, come arriveranno. Io sono contrario, io non lo sappiate, farei mai, per esempio. Come, che state comunque investendo i vostri soldi in un modo sempre, come posso dire, rischioso, ecco, quindi fatelo con consapevolezza e dopo, quando succedono le cose che succedono, non vi incazzate, perché parte del problema siete anche voi. E non parlo dell'early access, che ha una funzione sì di recupero del denaro da parte dei costi di produzione, ma comunque diciamo che trasforma la fase del beta testing onerosa in una fase di beta testing remunerativa, diciamo così, dove comunque l'utente interagisce e si sente parte del progetto nel momento in cui comunque dà un contributo, no? Cioè, nel senso, in qualche maniera sarò, dicevo, strano io, però non riesco proprio a tollerare questo concetto di ribaltare il rischio di impresa sulla fanbase. Lo so, cioè, non manco, ha più senso. Manco io, Walter, però se ci pensi, quella è gente che alla fine il gioco se lo sarebbe comprato uguale. Cioè, se è disposta a darti soldi in anticipo, vuol dire che quel gioco se lo comprerà. a quel punto sta cosa la sfrutti e non solo ci ritorni economicamente, ma hai anche un beta test più diffuso su tante configurazioni diverse, su tanta gente diversa che per passione ti riporterà i bug che trova, le difficoltà che hai incontrato. Cioè, sì, è vero, stai ribaltando un costo, però è vero, stai anche facendo lavoro non retribuito, perché alla fine l'esperienza del gioco diventa quella di bug hunting. E ci levi il romanticismo anche, Puccio, del fatto di quella cosa romantica che era una volta ricevere la mail e sentirsi quasi investiti di qualcosa, di una carica speciale, che era quella del beta testare il gioco prima che uscisse, dell'andare nei forum, dire qual era il bug, mettere gli screenshot, eccetera. Poi, scusa, posso dire una cosa? Sì, è vero, c'è ragione. Se proprio vuoi che io ti faccia da beta tester gratis, almeno mi regali il gioco, io la vedo così. Ma purtroppo il meccanismo è diventato questo. Anzi, che io ti dico, comunque ti danno il gioco, perché comunque ricordiamo sempre che anche le raccolte fondi, diciamo, su progetti Star Citizen, Star Citizen è un caso, ma io, cioè, noi, cioè, non so de cose che siamo, cioè, che sono state delle grosse inculate, diciamo così, sempre per parlare in francese, no? Quindi anche quando c'era ancora con noi Giuseppe Saso, sapete, lui a manetta, no? Cioè, Kickstarter a manetta proprio, e poi alla fine dice, ma quel gioco non è uscito, oppure che delusione, il gioco fa schifo. A volte, oddio, dipende, perché sai, io e Giuseppe, per esempio, mettiamo i soldi per Armello, che è bellissimo. Abbiamo messo i soldi. Armello qual è? Quello dei pupazzetti, quello quella specie del gioco da tavolo, sì. Vabbè. Sì, a me, cioè, definirlo bellissimo, regà, proprio bello invece. No, lascia sta. Ci ho fatto le nottate intere con Giuseppe, anche un paio di volte. Immaginavo, infatti. Giusto con Giuseppe, perché io dicevo, ma famole le serate da Armello, vabbè. Dai, regà, vabbè. Vabbè, la giornata gioco da tavolo, dai. Allora, Leonardo, tu con che computer stai giocando Cyberpunk? Allora, io in realtà neanche troppo PC Master Race, perché il processore è un Ryzen 7 2700X, quindi abbastanza, ormai andiamo verso il mediano, comincia a diventare vecchiottino. Ah, tu sei un anti-Intel, quindi. Ma in realtà no, perché ho usato Intel fino a questo di processore. Poi ho preso un Ryzen e ho detto, ok, va bene. Va bene. Da lì mi sono convertito, ragazzi. Perdonatemi. Esatto, mi sono Intel sta per vivere un brutto inverno, sentite questa profezia. Dopo l'i5 ho fatto questo salto qui, ho detto ok, al stesso prezzo dell'i5 mi sono preso qualcosa che va mille volte meglio. Poi c'ho un 32 gigini di RAM a 3600 Hz, niente di incredibile. La scheda madre non me lo ricordo che scheda madre sia, è una Aorus qualcosa. E c'è scritto gaming da qualche parte, quindi dovrebbe essere buona. E poi andiamo sul bottleneck. No, quelle no. Allora non vale il cazzo. Non è Tamarra, non è da gamer. Esatto. E poi andiamo sul bottleneck del PC, che è lo SLI, o lo SLI a dir che si voglia, di 1070, che verrà sostituito abbastanza presto, spero, da una 3070 o una 3080, in base a... E tu sei ancora un utilizzatore di due schede in parallelo, nello SLI hai due schede, quindi? Esatto, sì, che è una storia un po' lunga, diciamo che ci sono di mezzo l'Ethereum e Bitcoin, quindi insomma sostanzialmente queste schede me le sono ritrovate per le mani, a un certo punto ho detto che faccio, le butto, e quindi è diventato uno SLI, piuttosto che andare sulla serie 2000, che al tempo c'era quella, ho detto a sto punto uso due serie 1000, buonanotte. Sì, infatti ricordiamo che Valerio, il Ciriola, no? Che è stato con noi, insomma, due puntate fa insieme a Leonardo, che lui per esempio proprio un paio di giorni fa, insomma pochi giorni fa, gli è arrivata la 3070, infatti stasera si è buttato su Twitch a tutta gallara, perché insomma voleva, sta comunque godendo, no? delle nuove impostazioni, però ecco, insomma, ragazzi, quelli lì sono... Ma sta piangendo Puccio o sbaglio? Sto benissimo. No, scherzavo, nel senso, facevo ironia. No, è perché per il culo, perché vabbè. E qua piangiamo tutti. Ma poi non ho capito, Puccio, non ti è ancora arrivata, oppure non l'hai più ordinata? Cioè, scusa, fammi ordine. Non l'ho trovata, io l'avrei comprata, okay. Non ho messo i soldi da parte. Non l'ho trovata. Il mio spacciatore di hardware mi ha detto, quella che vuoi tu, perché io tendenzialmente compro Asus, quella che vuoi tu, se sei molto fortunato, arriva dopo la metà di febbraio. Quindi, che devo fare? Però a Valerio gli è arrivata. E comunque ricordate che c'hai la tua che è prenotata, chiaramente. No. Difatti, guarda, la sto anche usando poco. Te la spolvero. Vogliamo toccare pure le periferiche esterne più che altro, perché magari potrebbero interessare pure quelle eventualmente. Vai, certo. Allora, tastiera e mouse. Io, ragazzi, tra l'altro, la mia ha le lucine di tastiera. È una Corsair K55. Che per gli amanti delle tastiere a membrana la consiglio alla grande, perché costa poco, dura un botto e c'ha le lucette. Quindi io l'ultima tastiera a membrana era il ZX Spectrum, quindi. Ma io invece quella vecchia, la mia penultima tastiera a membrana era una Sidewinder X10, mi sa, quando Microsoft aveva fatto rinascere il brand Sidewinder, qualcosa come nei primi 2000, eccetera. Quella l'ho usata per, penso, 15 anni, qualcosa del genere. Scusa, Lobby ti chiede, Valerio, chiede non so se sta parlando in chat o a noi, perché si chiede di fare un'idea dei prezzi per i vari setup, però poi vabbè, no, mo' non è Valerio, quindi mo' non esageriamo, perché sennò poi qui non finiamo più. Forse a parte che con le fluttuazioni di prezzo che hanno variano parecchio. Parliamo di hardware proprio recentissimo, per cui, okay. Invece Puccio, tu che configurazione c'hai? A parte i 6 monitor. No, 6 monitor, 3. Allora, io ho un Core i7 di nona, 32 giga pure io a 3.7 per motivi di macchine virtuali, una Nvidia 2070, marca Asus, la mia scheda madre è una Asus ROG Strix, anche qua c'è scritto ROG Republic of Gaming, quindi deve essere buona. La mia c'ha pure le lucine, e siccome c'ho il case con la parete di vetro, il case Cooler Master, poi vi dico anche il modello che non mi ricordo, c'ha la parete di vetro, quindi si vede l'effetto luminoso da gamer professionista anche fuori. Tastiera e mouse tutti e due Razer, ornata croma la tastiera e Basilisk il mouse. Tutti e due con la funzionalità mouse. Sì, tutte e due con la funzionalità croma, quindi ogni tanto faccio gli effetti discoteca. Poi vi giro un video, perché ho trovato un utility che mi sincronizza gli effetti di luce della tastiera, del mouse, dello sfondo del desktop e della lampada UE della Philips col dimmer che cerco qui. Quindi diventa una sorta di parco divertimenti, camera mia, mentre gioco. Intanto c'è Morris che continua disperatamente a cercare di riparare questa PlayStation 3 60 giga, quella retrocompatibile. E non ci riuscirai mai. Morris, quindi attacca ad Arcane. Ho giocato molto col pad dell'Xbox One. Ah, ecco, vedi. Okay. Io devo dire che mi sa che io e Walter siamo i poracci qua dentro, giusto Walter? Tu sei poraccio. Ho rinunciato a stare appresso a una configurazione da PC da gioco, ma per vari motivi, perché insomma non è per comodità. Io preferisco avere un unico computer portatile molto leggero per fargli fare casa e ufficio. Non mi va di avere il desktop a casa per vari motivi, quindi ovviamente la scelta poteva essere originariamente potevano essere tre: un'ipotetica nonché illusoria PlayStation 5, la versione del PS4 liscia, perché io ho la PS4 prima maniera, o Stadia. Qua ho scartato praticamente subito ogni velleità di comprare la PlayStation 5. Quando ho capito da una serie di segnali abbastanza contraddittori che forse la versione PS4 di Cyberpunk non sarebbe stata poi così godibile, mi sono detto: sapete che c'è? C'era la promo per acquistare, per preordinare Cyberpunk su Stadia, che dava diritto nel prezzo del gioco, quindi nei 59 euro pagati, anche ad avere una Chromecast 4K e un pad Stadia. Ho detto: sapete che c'è, vuoto per pieno una Chromecast, comunque mi fa comodo, in più era la terza, però mi faceva comodo averla con la porta Ethernet per un domani e varie altre cose. Ho detto: sai che c'è, proviamo. Ho ordinato quel bundle e alla fine ho scoperto che praticamente la versione Stadia, al netto dei glitch che abbiamo tutti, però da un punto di vista prestazionale la versione Stadia di Cyberpunk è una di quelle che si comportano meglio, e oltre ovviamente alle configurazioni Master Race da PC, insomma la versione Stadia sembra essere veramente quella più equilibrata. Beh, devo dire, l'ho provato anch'io e veramente sono molto molto molto soddisfatto. È impressionante. Io gioco a 1080 perché non display di nessun tipo a 4K, sono riuscito ad accomodare anche la mia linea che mi dava un sacco di problemi, ma tra cambio di router e cambio di profilo adesso potrei godermi anche il 4K con buona probabilità, però tanto Rizzard di insulta in chat, non so perché, però poi fai tu, insomma, vai in su. Tu taci, green. Sì, vabbè. Così. Vabbè. Però insomma, è andata così. Ragazzi, allora facciamo così, volete fare una considerazione finale, se no andiamo poi a chiudere, così poi mi vado a fare la posta. Assolutamente, una sugli RGB o le lucette che sono importantissime. Ho visto pure che ce l'avevo fatto notare proprio Rizzard, che quelle sono tanto importanti quanto, e questo è un meme particolare, quanto l'Eurodance in macchina. Non so se avete visto Initial D alcuni di voi, però si dice che l'Eurodance ti dà 50 cavalli in più e l'RGB è l'equivalente per i PC, quindi se hai la lucina assolutamente sei molto più coperto sotto tutti i punti di vista. E vabbè, come io mi sono comprato un bel tubo a LED RGB qua da mettere sulla scrivania della radio, in modo che ogni tanto, a seconda della trasmissione che faccio, metto un colore diverso. Così ti ricordi che trasmissione è. Bravo, vedi, esatto. Infatti questa sera siamo sul giallo arancione perché è Ludico Forum, perché altrimenti sarebbe blu per Runtime by Night o rosso per Mono e le varie trasmissioni, insomma. Quindi, e OGM chiaramente è viola, insomma, Walter, come potrebbe OGM non essere viola? Va bene, ragazzi. Vabbè. Io vi saluto, così almeno voi fate le vostre chiacchiere se volete, insomma io finisco, insomma. Aspettate, vi sto girando il video di camera mia su Skype perché io sono Tamarro, ma lo dovete vedere. Vabbè, ma tu intanto ve lo vedete voi, io nel frattempo vado avanti col programma, caro Buccio, insomma. E quindi intanto io vi ringrazio Leonardo, insomma, che è la seconda volta che viene da noi. E per me è un piacere perché veramente con lui si parla e torneremo magari in un futuro a parlare proprio di giochi di ruolo. Molto volentieri. Magari, ecco, quando insomma una volta faremo una bella puntata su Baldur's Gate, ce l'avevo in programma verso marzo, insomma, diciamo così, fa una bella puntata su Baldur's Gate, quindi poi alla fine ne parleremo. Quindi ricordatevi il suo canale Alawin su YouTube, andate, mettete like ai video, soprattutto iscrivetevi, attivate la campanella perché è da seguire. Chiaramente non aspettatevi lo youtuber very fast che gioca un gioco in 10 video, perché non è il genere. Stiamo parlando di una persona che comunque i giochi di ruolo, prevalentemente giochi di ruolo, se li fa belli spulciati, e soprattutto ci sono belle chicche anche storiche all'interno del suo canale, magari di giochi che come me non avete giocato, tipo Vampire, ve li spiega, ve li racconta, bello, veramente, veramente un bellissimo canale, quindi insomma andate. Grazie Leo. Grazie a te Simo per l'invito e alla prossima. E ringraziamo anche Carmine Puccio. Ah no, Carmine, ma tu c'è un libro? C'è il libro per questa puntata? Oppure vogliamo fare tutto direttamente? No, vabbè, facciamo così, mi limito a un consiglio. A febbraio Mondadori, nella collana Draghi, pubblicherà un volume che si chiama banalmente Cyberpunk, all'interno del quale ci saranno una selezione di racconti presi tra Gibson e altri autori più mainstream, ma all'interno ci sarà anche Snow Crash di Stevenson, che è un caposaldo del genere, è bellissimo e la traduzione in Italia è quasi impossibile da trovare. Mi fermo qua. Benissimo. Quindi compratelo quando esce. Benissimo. E vabbè, poi Puccio lo ritroviamo insomma sicuramente settimana prossima nel prossimo episodio di Ludico Forum, che sarà dedicato alla Unreal Engine, ovviamente oltre il videogioco, quindi tutte quelle che sono le applicazioni di un engine 3D in questa era, insomma, dove questi strumenti iniziano, anzi sono già utilizzati anche per altre questioni che possono essere professionali, di animazione, televisive, architetturali e via dicendo, insomma. Quindi poi torneremo, insomma, a parlare anche di questo, e lì daremo più spazio a Puccio, che ci riporterà questa volta non due o tre libri, ma direttamente sei, per recuperare i libri perduti. Sì, facciamo, insomma, il pieno. Esatto, vai. Esatto. E ringrazio e saluto Walter Sbano. ragazzi, io ricambio i saluti, saluto tutti gli amici in chat e vi do appuntamento anche ad OGM. Lunedì torniamo all'appuntamento consueto. Esatto, che sei carico, tu sei carico, tu te sei tenuto un argomento in particolare, te lo sei tenuto per lunedì prossimo. Quindi lunedì, Simone, sera. Tu non lo sai, ma io nel 2021 sarò molto diverso. Ormai sono sotto l'Exotan. Quindi ormai è tutto liscio. Ok, perfetto. Oh, a proposito di AGM, ma oggi non c'è il finale di stagione di Discovery. Non è il finale di stagione. Ci sono ancora due episodi. Esatto. Ah, minchia. Comunque già uscito. Bene, vabbè. Okay. Quindi lunedì sera, ricordatevi, OGM 21, sempre qua su Runtime Radio. E io adesso saluto i miei amici e arriviamo con la posta e ci vediamo, arrivederci ai nostri amici e io continuo, ci vediamo fra un secondo e mezzo. Bene, bene, bene, bene, ragazzi, cambia ovviamente il discorso, perché adesso entriamo un attimo su quello che sono il discorso della posta, ma arrivo fra un secondo soltanto. Ari, eccomi, scusate ragazzi, ma c'è stato un quidi pro quo. Mi dovevano dare delle comunicazioni dalla redazione, e le comunicazioni dalla redazione a questo punto ve la dico subito, dato che comunque me l'hanno dette, che sono che mercoledì sera faremo uno speciale di Runtime dedicato a Ciao 2020, che è questo show che è stato mandato in onda dalla televisione russa, che era tutto in italiano e che era una sorta di omaggio, satira della televisione trash italiana degli anni 90 e 80, insomma. Michela e Carlo Sant'Agostino sicuro, poi non so se si aggiungeranno poi anche altre persone. Allora, intanto invece, per continuare sulla posta, abbiamo un messaggio di Enrico che giustamente oggi, durante le varie discussioni sulla nostra chat su Telegram, che potete cercare su Telegram scrivendo Ludico Forum, ha chiesto qual è la differenza, come, che senso ha e come si riconosce un HDR, diciamo così, cioè nel senso non gli è proprio chiaro questo concetto, dato che la scorsa settimana abbiamo parlato di HD e HDR all'interno della puntata di Ludico Forum. Allora io ho chiesto ad Alex ovviamente di fare una breve spiegazione, poi da questa breve spiegazione chiaramente nascerà poi successivamente anche un episodio di Tecnopills proprio di Alex Raccuglia, che uscirà insomma nei prossimi giorni. Quindi ci ascoltiamo la spiegazione di Alex, che dura 8 minuti, però è abbastanza interessante, speriamo che sia esaustiva per il nostro amico Enrico che voleva saperne. Ciao cari amici di Ludico Forum, io sono Alex Raccuglia di Tecnopills. Sono stato summonato per rispondere a una domanda che purtroppo non potrò soddisfare così tanto, perché è una domanda molto lunga e complessa. Infatti mi riprometto di registrare una puntata di Tecnopills più approfondita, e anche perché mi metterò anche un po' a studiare per rispondere a pieno e per, insomma, sviscerare un po' tutti i dubbi su questo argomento. Però una piccola infarinatura posso darla anche così velocemente. Allora, mi è stato chiesto di parlare di HDR e di conseguenza iniziamo a parlarne. Allora, HDR cosa significa? HDR sta per High Dynamic Range, significa range dinamico elevato. E elevato in che senso? Elevato nel senso che è migliore. Ma migliore di che cosa? Facciamo una sorta di piccolo parallelo. Vi ricordate? 10-20 anni fa, quando si parlava di HD, HD voleva significare un sacco di cose. Significava una risoluzione di un video, di una fotografia, ma soprattutto di un video, superiore allo standard definition. Di conseguenza si parlava di HD quando si avevano informazioni in full HD o HD ready, tra virgolette, che era il 720p, ma in sostanza si parlava di HD ogni volta che si era qualcosa di superiore alla standard definition. Adesso HD è un pochettino più strutturato, si parla di HD essenzialmente soltanto quando si ha il 1080, però allora le cose erano un po' più complesse. HDR è un po' la stessa cosa. Parliamo di range dinamico elevato, ma elevato più di che cosa? Negli ultimi 30 anni, tendenzialmente tutti i formati video, fotografici, eccetera, eccetera, eccetera, a partire dal JPEG in poi, sono stati formati che avevano essenzialmente, mettevano a disposizione 16 milioni di colori. Ma in che modo? L'immagine viene suddivisa nelle sue tre componenti, rosso, verde, blu, RGB, e per ogni componente si possono utilizzare 256 livelli di colore, di luminosità, diciamo. Perché 256? Perché essenzialmente 256 è il numero massimo di valori che possono essere registrati con un singolo byte, cioè 8 bit. 256 livelli di rosso e di verde e di blu moltiplicati, 256 per 256 per 256, fa 16 milioni e qualcosa. Cosa significa 0? Cosa significa 256 livelli? Significa che con un singolo byte si possono registrare valori da 0 a 255, dove 0 è nero, cioè niente assoluto, e 255 è il livello massimo. Ecco, l'HDR si pone l'obiettivo di avere più informazioni di colore, utilizzando invece di soltanto 8 bit, più bit, di solito si parte dal 10 in su. Questo però significa un sacco di cose, perché uno potrebbe dire, certo, con 10 abbiamo 1024 livelli, da 0 a 1023, con 12 ne abbiamo molti di più, ne abbiamo 4096, eccetera, eccetera, eccetera. E questo si può significare un sacco di cose. Ma andiamo un po' a parlare di quello che potrebbe essere un range dinamico elevato. I sensori delle macchine fotografiche, delle cineprese digitali, lavorano a più di 8 bit, perché sono più performanti, più precisi. I vecchi sensori ne avevano meno di bit, quelli nuovi ne hanno di più, ovviamente. Significa che essenzialmente, se scattiamo una fotografia con una macchina fotografica anche di 12 anni fa, possiamo catturare 14 livelli di luminosità per ogni pixel. Sono tantissimi. Di solito però gli ultimi due si possono trascurare, perché sono talmente poco precisi, talmente piccoli, che le differenze di interferenza di rumore elettronico, oppure soltanto di qualche fotone che va in più e che va in meno, sono trascurabili. Diciamo che con un sensore a 14 bit si possono catturare immagini a 12 bit, che è già una gran cosa. Queste immagini poi vengono salvate in qualche modo, significa che il formato che permette di registrare queste immagini deve essere tale per cui possa gestire più degli 8 bit canonici. JPEG ne gestisce soltanto 8, per esempio. Formati successivi, o anche per esempio lo stesso RAW, che è il formato standard, cioè che è il formato nativo del sensore, consentono di registrare effettivamente tutto quello che il sensore ha catturato. Però ovviamente catturare delle immagini, dei video RAW, è un po' un casino per certi versi, per cui di conseguenza si utilizzano dei formati compressi che però riescono a raggiungere tranquillamente i 10 bit, anche con formati, con sistemi standard di 10 anni fa. Alla fin fine poi questo flusso video, mettiamola così, deve poter essere elaborato, perché difficilmente le cose che catturiamo le esportiamo esattamente così come le abbiamo prese, per cui possiamo farci delle elaborazioni, per cui avendo molti più bit, che ne so, lavorando a 12 bit per esempio, si possono fare delle correzioni di colore molto più precise, si possono fare degli effetti di chroma key molto più precisi, insomma si può andare con precisione. Però alla fin fine oltre al formato di intermedio, che è quello che consente all'autore delle immagini, dei video di lavorarci, ci deve essere un formato finale di esportazione. Questo formato finale di esportazione deve consentire di registrare tutti questi bit. Di solito si arriva fino a 10, perché è difficile poi gestirli in maniera differente, anche perché poi anche l'ultimo anello della catena, cioè il nostro televisore, lo schermo, il monitor, cioè lo strumento di visione, deve poter gestire tutti questi livelli. Di solito si lavora con immagini a 10 bit perché i pannelli riescono a gestire tutte queste informazioni di luminosità, per cui i 10 livelli sono 1024, che comunque sono 4 volte tanto per ogni singolo colore. Moltiplicando 4 per 4 per 4 si arriva a 64, significa un'informazione di colore 64 volte più precise rispetto allo standard normale. Però per HDR si identifica anche la possibilità di un televisore, dello schermo, di proiettare immagini di luminosità anche superiori al 100%. Cosa significa? Spesso e volentieri, soprattutto per contenuti che abbiano carattere non soltanto informativo ma anche emotivo, si sceglie di impostare come livello del 100% un certo livello di luminosità, ma si consente al segnale e al formato del file o dello streaming video che viene trasportato di andare oltre questo 100%. Uno potrebbe dire, ma com'è possibile? Essenzialmente il monitor viene venduto il monitor o il televisore, in modo tale da poter raggiungere un certo livello di luminosità massimo, che è il 100%, ma per brevi istanti di tempo, per qualche decina di secondo, e per alcune aree dell'immagine, di solito sotto il 10% dell'immagine intera, si consente di fare una sorta di burst, cioè di dare un picco di luminosità che sia superiore a questo 100%, per cui si utilizzano i bit superiori, questi bit nuovi che abbiamo aggiunto al formato, per dare delle luminosità superiore, maggiore. Questo consente di avere delle immagini che in certi momenti possono essere molto più luminose del massimo raggiungibile dello schermo, perché c'è questo momento di picco, cioè un po' si fa una sorta di burst, un po' come i processori possono raggiungere delle velocità più elevate in momenti di picco, allo stesso modo questi segnali possono raggiungere questi livelli superiori. Che ne so, magari stiamo guardando una scena al tramonto e quei pixel che rappresentano il sole possono essere illuminati in modo tale da essere ancora più luminosi dallo standard massimo. Questo fa sì che l'immagine sia ancora più vivida e ancora più forte, perché è superiore al livello massimo, tra virgolette teorico, fisicamente raggiungibile dal monitor. In realtà appunto il monitor raggiunge questi livelli superiori, ma soltanto per piccoli istanti di tempo. Ovviamente questa cosa non può essere protratta nel tempo e viene centellinata dagli autori del filmato, in modo tale che soltanto in certe occasioni si possa raggiungere questi livelli di maggiore luminosità, anche perché poi il monitor si rovinerebbe, per cui andrebbe in protezione. Per cui diciamo che viene mantenuto questo livello, il livello massimo, e comunque con una maggiore definizione di tutte le sfumature, ma si possono raggiungere anche livelli superiori in questi momenti di picco. Direi che per una infarinatura sono stato anche sin troppo prolisso, per cui lascio la parola ai cari amici di Ludico Forum, dandovi appuntamento a una successiva futura puntata di Tecnopills, in cui parlerò dell'HDR, andandomi a studiare un po' meglio gli standard, in modo anche da spiegare effettivamente come questa cosa sia possibile e come viene sfruttata. Di conseguenza lascio la palla ai miei cari amici di Ludico Forum, e ringraziandovi dell'ospitalità, e niente, un bacione, ciao. Bene, ovviamente io ho provato a dare una spiegazione a Enrico, diciamo, durante la chat, ma ho scritto sicuramente delle boiate, anche se più o meno io posso anche comprendere certi meccanismi, ma non so come funzionano, quindi vado un po' in interpretazione. Alex è sempre la parte tecnica, soprattutto per quanto riguarda il discorso audiovisivo, ma anche su tante altre cose. Mi scuso con voi ascoltatori e con Alex in particolare, perché ho messo nella stessa traccia praticamente il parlato di Alex con la base, quindi per stare a un livello alto la voce di Alex c'era anche la base, che era alta, ma insomma penso si è capito molto bene comunque quello che diceva, e per il resto insomma la prossima volta cercherò di non commettere questi errori. Vi ringrazio per aver ascoltato, vi ricordo appunto mercoledì sera alle ore 21 ci sarà questo speciale su Ciao 2020, che è questo show televisivo che la televisione russa ha dedicato all'Italia, a un certo tipo della cultura pop trash italiana, e insomma di cui insomma che alla fine è diventato un fenomeno, una cosa che sembrava lì per lì insomma una cosa da sottovalutare, in realtà invece è stata molto molto interessante e andrebbe approfondita, perché comunque ci sono tanti spunti da cogliere. E vi ricordo invece venerdì sera ci sarà appunto la puntata sempre di Ludico Forum, la 1x04, dedicata alla Real Engine e su quelle che sono le applicazioni oltre il mondo del videogioco, e sarà sicuramente una puntata interessante, perché saremo appunto, vabbè, io come conduttore, ci sarà Alex Raccuglia, Roberto Marin, Carlo Sant'Agostino e Puccio Carmine Consol, che finalmente potrà poi tornare a parlare di libri, così come non è stato nelle ultime due puntate, uno perché in una puntata lui è mancato e l'altra perché questa sera non l'avevo scritto in scaletta e quindi mi sono scordato, e quante cose ci scordiamo. Ringraziamo sempre Carlo Burigana per gli assets che ha costruito, quindi la sigla iniziale e la sigla finale. Ringraziamo anche Alex per quella che è la grafica di Ludico Forum e tutte le persone che collaborano con noi, anzi c'è anche Simone Cusella la prossima puntata, quella della Real Engine, ovviamente vedete che mi dimentico qualcuno. Per il resto insomma vi ringrazio, e vi ricordo anche domenica c'è un'altra live di Mono con Michela De Paola, dedicata alla musica e ai libri, quindi un libro, una canzone, una cosa molto carina ci è venuta in mente, insomma questa cosa ci è venuta in mente così, ma non domani, chiaramente la prossima settimana. Detto questo, io ringrazio a tutti e ringrazio le persone che hanno partecipato con me a questa puntata, spero che sia stata interessante, fateci sapere, commentate, soprattutto fateci domande alle quali potremo poi rispondere durante i prossimi appuntamenti. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima settimana. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.